sicuramente sono una grande attrice perché, insomma, sono 12 anni che comunque lavoro e non si è ancora capito se ci sono o se ci faccio, quindi, insomma, più attrice di me. La Zanzara. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Ma lo sai, David, che il presidente della regione Lombardia, sì, ancora per poco, Roberto, sì, Formigoni, sì, con quelle camicie improbabili, si è messo, signori, mi sta tornando la voce a poco mi sta tornando. Lo sentite? Sì, si è un po' abbassata da qualche ora, ma mi sta tornando, non vi preoccupate. Perfetto, Amanda Lear finisce. Chi mi voleva morto, purtroppo, è rimasto deluso. Ieri sera sono finito anche in barella. L'ho portata, lei, sì, ieri al policlinico l'ho portata. In barella, signori miei, sono finito in barella per 2 ore. Vedrete tra poco tutte le foto su Twitter. Comunque, era una parentesi. Dicevamo? Formigoni. Formigoni si è messo a fotografare gli UFO. Probabilmente era un UFO di Dacò quello lì. Era, ma ti rendi conto, è andato a Parigi? È, sì, andato a Parigi. A fare cosa, tra l'altro, a Parigi? No, lo so, vabbè, una gita istituzionale. Non so, la gita istituzionale a Parigi! Vabbè, una missione istituzionale. Ma vabbè, che missione? Succede, comunque in Francia, a Parigi, non lo so. Si è messo a fotografare un affare in cielo, sì, un affare lucente. Poi luce, sì. E ha parlato di UFO in un tweet su Facebook, non so dove. Ma tu lo sai che l'ultimo a parlare di UFO è stato Borghezio, se non ricordo, Marione bene. Borghezio, il quale crede negli UFO. Le superpotenze hanno, nella fattispecie, le superpotenze spaziali, Stati Uniti e ex Unione Sovietica, oggi Russia in particolare, abbiano tenuto nascosto, e anche le grandi organizzazioni militari come la NATO abbiano tenuto nascosto o quantomeno riservato ogni riferimento e ogni notizia riguardante apparizioni di oggetti non identificati. Vi rendete conto? Vi rendete conto? No. Va bene, va bene, insomma. Lo sai che vorrò, quando succederà? Quando, sì, succederà? Lo voglio raccontare in diretta alla radio. La tua dipartita? Esatto. Ecco, quando succederà? Perché ieri alle 20:30 hai cominciato a sudare, non parlavi più. Adesso la gente a casa non credo ti abbia visto perché questa è radio. Eh no, no? Eh no, è radio, si fila prova contraria. Esatto, è radio, io radio, sì, non ti ho visto. Ma c'è stato un collasso pazzesco sui Cruciani. Il collasso di Cruciani. Vi assicuro che stavo per passare a miglior vita. Adesso, sì, lo dico scherzando, ma stavo per passare a miglior vita. Poi ho tenuto botta fino alla fine. Oggi sono migliorato, abbastanza carico. Mia, domenica correrò. No. Sì, sì, domenica correrò. Domenica correrò. No. Sì, sì, domenica correrò, però lunedì non ci sarà più Cruciani, signori. Però signori miei, vi assicuro che ho passato dei momenti molto molto difficili, ho deciso che quando sarà il momento lo voglio raccontare in diretta alla radio. Intanto questi UFO dovrebbero portarsi via un po' di gente, a cominciare. Non so se in realtà devono portarsela via sta gente, perché altrimenti come faremo a lavorare noi? Saremo dovremmo chiudere temporaneamente, abbassare la Claire della Zanzara. Biancofiore, la Minetti ma è imperversa dappertutto, in una trasmissione che noi conosciamo bene che si chiama L'aria che tira. Ah, buona, la signora Merlino. La quale si è trasformata da trasmissione economica, di approfondimento economico, in una sorta di Elsa Poppi, in una sorta di cabaret. Questo non c'è dubbio. Si sente l'aria che tira, no? Allora, del paese. Diciamo la verità. Hanno capito pure loro, no? Hanno capito anche loro. Biancofiore, Minetti, presentata a Berlusconi da un prete, aveva un curriculum eccezionale. Biancofiore, vi prego, ridete fino a crepapelle. Col Minetti, lo sanno la storia, gliel'ha portata Don Verzè, un prete gli ha portato Nicole Minetti e gli ha detto che aveva un curriculum eccezionale, tanto per essere chiaro, ma l'ha realizzato, posso dopo finire? Allora, lui l'ha conosciuta così, aveva dopo un curriculum, se non sbaglio, addirittura una doppia laurea. Vienimi a pigliare. Una doppia laurea. Dio ci conservi a lungo, a lungo la signora Biancofiore. Ho sbagliato a dire all'inizio UFO portatevela via, extraterrestri portatevela via. Lasciateli tutti qui, altrimenti noi saremmo finiti, morti. Per esempio, se non ci fosse il signor Vincenzo Danna dei responsabili. Oh, è tornato il signor Danna. Io come farei? Quello dalle citazioni impossibili. Sentilo che dice. Di Bobo su questo non ha tutti i torti, però. Beh, no. Quando la pagheranno l'IRPEF le prostitute? È bello che lo dice durante un discorso alla Camera. Così, ma no, va benissimo. A buffo proprio l'ha detto. Che abbiamo tassato l'IRPEF delle pensioni di guerra. Più Leviatano di così, uno Stato non è possibile concepire. E consentitemi la gravità dell'espressione. Le prostitute quando la pagheranno l'IRPEF? Che fanno commerci ben più lucrosi e sono meno onuste di onori e di cariche come un mutilato di guerra. Vienimi a cercare Vincenzo Danna, un uomo, un mito. Poi a un certo punto cita in latino un passo del giudizio universale. Anche. E mi è venuto in mente un passo del giudizio universale nella parte in cui dice iudex ergo cum se debit quid quid latet apparebit, cioè alla fine quando il giudice supremo si siederà tutto ciò che deve, ogni cosa deve essere disvelato. Ma di che sta parlando Danna? Di cosa sta parlando? A quel punto sono intervenuti abbiamo gli già infermieri. un ospite proprio nel rush finale delle primarie del centro-sinistra. Però voglio farti ascoltare, Parenzo, cosa dice Sgarbi dei due cialtroni qui presenti, di noi, no? Cioè, dei due ladroni. Sempre all'aria che tira dalla signora Merlino. Senti, abbiamo fatto la notizia che io e te abbiamo fatto saltare, non è che sì. Sia il non era il summit universale, sì, eh. Non è. Abbiamo fatto saltare l'incontro tra Samory e il Cavaliere, anzi abbiamo rotto il rapporto tra Samory, detto anche Ciocorì, Crosetto e il Cavaliere, cioè Berlusconi. Ce lo spiega Sgarbi perché, sentite. Divento però il partito della rivoluzione, perché confido sulle idee. Dopo due mesi, un mio vecchio amico che è Samory, avvocato di tanti, brava persona, scopro che ha fatto MIR, Moderati in Rivoluzione. La parola rivoluzione mi eccita, vado a trovarlo, dico facciamo una cosa insieme. Sgarbi, perfetto, magnifico, perfetto. E decidiamo di fare questo partito. Però, per divertimento, io faccio questa battuta del ticket. Lui per tutto il pomeriggio si diverte a dire allora forse potrei fare il candidato alle primarie per provocazione come Protto, quando alla sera quei due tangheri, quei due minorati di Crociani e di Parenzo, cioè dei poveri deficienti, sarebbero quei miei simpaticissimi colleghi che fanno la zanzara, sì, quei due dementi imbecilli, quei due poveretti lo prendono per il culo. A quel punto alle 8:30 lui mi smentisce perché è turbato dal fatto che loro gli hanno fatto dire due tre cose. Primo, io ho una sola moglie e sono fedele. Secondo, non ho conti all'estero. Terzo, non racconto barzellette. Su come ricominciare. Povera Vittoria. Vi prego, ritagliatemi gli insulti che ci ha, sì, che ci ha mandato. I due dementi. Nessuna pietà per il professor Per Sgarbi. Introdurre l'ospite che abbiamo collegato, sì, con noi, vi faccio sentire gli sgommati di Sky. Renzi è partito col camper. Da oggi inizia la corsa alle primarie. Sarà una sfida a tre. Socio, mo chi è questa puppato? Via, si parte! Quando? Adesso! La Fosca, la Vellozzi! Eh? Puppa! C'è mai puppato? O cosa vuol dire? Oh, non mi sento bene. Lapo, accosta. Quando? Adesso. Questo era l'inizio delle primarie. Adesso, cioè, è un po' più conosciuta. Beh, certo. È un po' più conosciuta. Anche dopo il match è l'unica donna, su Sky. È l'unica donna. Laura Puppato, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, grazie. Poi sono lei è veneta, quindi mi ha una certa simpatia. E chi se ne frega? Perché deve avere simpatia per i veneti? Signora Puppato. Beh, perché c'è anche tra i veneti ci sono anche delle persone poco raccomandabili, come sai. Beh, no? Sì, assolutamente. Beh, puro campanilismo. Ci sono dei fascistoni pazzeschi, ci sono delle persone, dei leghisti, di un omofobi in maniera pazzesca. Sì, ti ricordi il signor, com'è che si chiama quel tizio là? Che è il marito dell'onorevole Goisis. Lo conosce Goisis, sicuramente, no? L'onorevole Puppato. Come il marito della Goisis. Il compagno della Goisis. Ah, il nostro Santino Botta. Beh, quello Santino Botta. Bozzo, dozza. Bozza. Ma non sai. Abbiamo il Dozzo che invece è stato adesso il capogruppo, mi pare, no? Senta, allora faccia la sua classifica finale delle primarie, però realistica. Beh, poi lei è no, di sinistra, non quella dei sogni, non quella dei sogni. Poi parliamo un po' di Nanni Moretti. Faccia la sua classifica. Arriva primo chi? Beh, allora, secondo me ci sarà una sorpresa il 25, perché secondo me gli italiani hanno anche capito che non è più il caso di farsi teleguidare appunto da sondaggi piuttosto fatti male. Vabbè, però adesso andiamo all'osso. Oppure magari dalle televisioni che ospitano ripetutamente sempre i soliti noti. Adesso non faccia la vittima con le televisioni. Non faccia la vittima. Faccia la solita pannellata. Vabbè, faccia la sua classifica realistica. Allora, primo Bersani, giusto? Chi vince? Diciamo subito chi vince le primarie. Primo Bersani, giusto? Ma come faccio a dire una cosa del genere? No, allora, diciamo così, se arrivo dopo Tabacci mi ritiro dalla politica. Possiamo dire questo. Ma no, ma io insomma, dai. Vabbè. Lo dice o no? Andiamo avanti. No, veramente, se arriva dopo Tabacci si può sarebbe una cosa clamorosa, una sconfitta. Noi non ci crediamo, però se lei arriva dopo Tabacci lo può dire, mi ritiro dalla politica, o no? No, ma io non arriverò dopo Tabacci, ma non arriverò neanche dopo altri, Beh, prima quindi di Vendola, di arrivare prima di Vendola. No, ma scusate, io sto sentendo tutti convinti di vincere, no? A me si chiede quando arrivo, cioè dove arrivo. Vabbè, ma noi siamo realistici, non è che siamo noi le vogliamo anche bene del resto. Non siamo sognatori, soprattutto non siamo Laura Puppato, dunque è normale che siamo lì e vediamo le cose e pensiamo che lei possa arrivare o quarta o quinta, diciamo la realtà. Vabbè, non è male, È un'opinione, ci sentiamo lunedì, dai, non è un problema. Capito, ma però lei pensa davvero realisticamente di arrivare prima? Cioè, almeno ci dica questo, io arriverò prima, perché, voglio dire. Realisticamente penso di poter arrivare seconda, sì. Addirittura penso di poter arrivare seconda, cioè dopo, dopo Bersani? Dopo qualcun altro, di due, sì. Senta, se Renzi e Bersani dovessero arrivare al ballottaggio, lei chi vota? Questo l'ha già detto, immagino. Perché ormai non l'ho mai detto, perché non l'ho deciso. Se Renzi e Bersani arrivano, chi voterà lei? Appunto, non l'ho deciso. Vabbè, non l'ho mai più detto, o meno, ma sa perché non l'ho deciso? Perché? Perché nel mio programma ci sono priorità che negli altri programmi non ci sono. Va bene, questo d'accordo. E se io ho la responsabilità. No, ma c'è una responsabilità politica, nel senso che non è che mi sono candidata per fare la bella statuina nel bosco. No, ma nessuno dice allora, questo. Allora, no, ma è importante, credimi. E quindi ha valore che chi dei candidati eventualmente non fossi io. E chi è più vicino a lei? Più vicino a lei chi è tra i due? Riesca a mettere in conto di poter inserire per me priorità come quelle appunto che hanno a che vedere con la green e la blue economy piuttosto che con i diritti civili. Sì. Quando decidiamo di metterlo in prima, diciamo in prima fila, e quindi però tra i due, tra Bersani e Renzi, chi è più vicino a lei? Se lo Bersani, sarà posto il problema. No, ma io sono. Cioè, perché mi chiedete queste cose? Perché questo è. Nel senso che li conosco entrambi. Ho capito, ma se dovessero arrivare al ballottaggio, uno a un certo punto sceglie. Io personalmente o dico ai miei elettori, a quelli che mi hanno letto, a quelli che mi hanno votato. Ma Dio, ma se via, perché ve lo devo dire adesso? Beh, che ne so, ma uno magari ha già le idee chiare adesso, non è. Ma non ho fatto un'idea e me la farò in relazione a come verrà, come dire, inserita questa priorità per me, queste priorità nel loro programma. Mi sembra no? che però in questi giorni lei abbia detto, insomma, abbia usato parole anche sferzanti, ogni tanto abbia criticato soprattutto Renzi, un po' meno Bersani. Questo glielo chiederò fra poco, insieme alla domanda su Nanni Moretti. Nel bilancino che avete voi, nel bilancino avete quantificato questo? Sì, assolutamente sì. Sono battute per l'uno e per l'altro, ma sempre in tono molto scherzoso. Ma sì, ma certo. Allora, sentiamo Renzi oggi in un fuori onda dagli amici di Radio 105, fuori onda, dire una cosa curiosa, se perdo porto comunque un gruppo di miei amici in Parlamento, sentiamo. E se io non vado lì, sono tranquillo, cioè, se io non vado lì, ho un po' di amici miei, cioè cercherò di avere un po' di spazio. Cioè, se tu vai e non fai io queste cose, non mi faccio comprare. Non si sente benissimo, però è quello che ha detto, cioè, se non vado lì, un po' di amici li porto in Parlamento. Ha capito, Puppato? Ai. La vecchia politica qui, è un po' la vecchia politica. Perché? Devo dire un po' uno scivolone, io che sono un supporter di Renzi. Siamo scivolati. C'è una roba da vecchia Democrazia Cristiana, dice lei. No, no, peggio, una vecchia politica, peggio. Nel senso che le correnti sono nate così, no? E io mi sono sempre opposta all'interno del mio Partito Democratico a qualsiasi forma correntizia, perché ritengo che il Partito Democratico sia una roba di correnti, sì, una roba di correnti, sì. Composto da persone che siano, sì, diciamo, capaci di rappresentare un, sì, territorio. Ma dove non la sentiamo? Scusi. Ma dove si trova la signora Puppato? Questo è interessante in questo momento. Dove, Genova, si trova? Genova centro storico. Centro, sì, storico. Scusi Puppato, ma se Renzi, lei lo voterebbe Renzi premier, candidato premier, dovesse vincere eccetera, lei lo voterebbe? Oppure pensa che la vittoria di Renzi distruggerebbe il Partito Democratico? No, questa non è una storia vera. No. Io se voglio ricostruire una fiducia nel paese, devo anche pensare, sì, che le persone con cui sto facendo la stessa attività, che è quella di far crescere il centro-sinistra, sì, lo stiano facendo in maniera onesta, perché altrimenti... Dunque, lei lo voterebbe, Renzi premier lo voterebbe? Se cominciamo ad avere dietrologie, è evidente che distruggiamo tutto e io sono stanca di vedere. Benissimo. Che ma lei lo costruire regole. Dunque, lo voterebbe Renzi premier, lei? Sì. Beh, se c'è premier lui del centro-sinistra lo voto di sicuro. Benissimo, benissimo. Senta, Nanni Moretti, è vero che l'appoggio o no? Perché sono voci, qualcuno ma dice, lui non l'ha smentito. Ma no, magari non mi ha chiamato Travaglio eppure mi appoggio, non mi ha chiamato Paolo Rumiz eppure mi appoggio, non mi ha chiamato, ma chiamato Marco Paolini eppure mi appoggio, non mi ha chiamato Natalia Spesi, però mi appoggiano. Per fortuna, ma che ne sa che Travaglio chiedere. L'appoggio? Io so che Travaglio appoggia... Non devo chiedere. So che Travaglio appoggia Grillo, non lei. No, stavo dicendo, insomma... Travaglio è quello che ha dichiarato esplicitamente, tra l'altro il giorno in cui c'era il confronto Sky, lo ricordate? Che le è piaciuta? Sì. No, era il riferimento appunto, sì, sì, la figura intellettuale che avevo indicato e che si è prestata appunto a sì, sostenermi come candidata. Ma qualcuno dice che porta un po' sfiga anche Nanni Moretti, no? L'appoggio di Nanni Moretti. C'è un po' sì, in genere dico, non ne azzecca una. Porta più nera Cacciari di Nanni Moretti, Porta perché... più? Era Cacciari di Nanni Moretti. Cacciari? Sì, sì, è vero che quello che dice Cacciari, quello che dice... di solito non si avvera mai, quindi, come dire, è meglio non essere sostenuti da lui. Io lo posso dire perché mi aveva sostenuto sia come candidata alla presidenza della, sì, regione del, sì, Veneto all'interno del centro-sinistra e sia per le europee, quindi insomma, voglio dire, siccome in entrambi i casi è andata male, magari stavolta che non mi sostiene mi va bene, capito? Senta, ma anzi, non solo non la sostiene, ma ha detto anche che una cosa è Montebelluna, una cosa è il paese. Infatti, una cosa è la filosofia, un'altra cosa è la concretezza. Cioè, non capisce un cazzo di politica, questo sta dicendo, detto con il linguaggio della zanzara, insomma. Nel senso che per governare un grande paese bisogna partire dalla politica tradotta in concretezza e chi l'ha sperimentata nella concretezza un cambiamento, sì, necessario sarei io, visto che sono stata qui meglio Nanni Grillo, Moretti, meglio di Nanni nel 2007 come miglior sindaco d'Italia, sì, 5 Stelle, capisce che forse qualcosa di positivo ha fatto. Meglio Nanni Moretti di Cacciari. Di Lega, meglio Nanni Moretti di Cacciari comunque. Ma guardi, sicuramente sì, anche perché Nanni Moretti sarà anche, come dire, una persona con forte, sì, introspezione, diciamo. Almeno è uno che quando dice una cosa poi la mantiene, insomma. E quindi a me piace molto la coerenza e quindi prediligo persone che non tendono a cambiare idea continuamente. Senta, lei le farebbe le interviste, le copertine con le nonne e con la famiglia, con il papà, come ha fatto Renzi con chi, con Oggi, credo, altri giornali? Oppure una forma di esibizionismo? Questo ragazzo, come ho avuto modo già di dire, come dire, dà troppo se stesso alla comunicazione, ecco, dovrebbe essere... No, ma è la politica, è la politica moderna, no? O no? O è, no, o una berlusconata? Sì, abbiamo vissuto questa politica per 20 anni, io direi che è meglio che ne usciamo per bene, no? Nel senso che cambiamo anche stile, atteggiamento... Cioè una berlusconata, andare sulle queste riviste patinate con la famiglia così a raccontare... Tu è una berlusconata? Io non lo farei. Lei non lo farebbe? No, vabbè, lo giudico una cosa alla Berlusconi, diciamo, no? Io non so se lui intendeva, come dire, o se la cosa è casuale. Non ho neanche visto le riviste, quindi non sono, sì, in grado di dirle. Però, effettivamente, voglio dire, cosa ci aggiunge questo? Mettere in piazza sentimenti, storie personali? Io credo che, insomma, la politica in questo momento, sì, abbia bisogno di altro, di idee per il paese, di un rafforzamento dell'idea risorgimentale che dobbiamo avere se vogliamo rinascere come paese, come comunità. Quindi, insomma, senta, la Bindi, questo, la, no? Bindi se la merita la deroga? Scusi? La deroga se la merita la Bindi, secondo lei? Non ho capito le ragioni per cui la vorrà chiedere, però, ma perché vuole essere candidata? Per candidarsi? sì, ho capito, ma siccome il meglio di noi stessi, come ha ripetuto ormai da molto tempo, lo diamo nel corso dei primi 10-15 anni in un ruolo, questo glielo posso dire. Dunque? Perché avendolo realizzato, come dire, come insomma... Cioè come ha fatto lavoro, il suo tempo, dice lei, politicamente. No, io dico che ciascuno di noi dà il meglio di se stesso in un tempo determinato. Dunque fosse non per lei, fosse per lei non la deroga non ci vorrebbe. Non in un tempo infinito, no, in politica no. In politica, dunque, la deroga per noi non gliela darebbe se dipendesse da lei. Io credo che non ci siano ragioni per darle una deroga, ma non perché lei non sia una persona squisita e non merita. Sì, no, certo. Ma perché può essere benissimo utilizzata altrove, la sua competenza, la sua cultura, la sua storia possono essere utili al paese, all'Italia, in altri modi. Beh, caro David, mi fa sempre piacere risentire questa canzone, questo Zanzara Party, mi fa sempre molto molto piacere. È un classico, un evergreen della Zanzara, i mitici Ridillo che intonano Zanzara Party. Ogni tanto dobbiamo ricordare anche, no, dobbiamo dare merito a chi ci ha portato, agli artisti che ci regalano queste perle. Intanto il ministro dell'interno Cancellieri dice ci vuole l'arresto differito come negli stadi per quelli che vengono pizzicati a tirare pietre, a fare violenza durante le manifestazioni. E questo è molto buono. E noi siamo dalla parte del ministro dell'interno. Sempre, in questo caso sì. Arresto differito come negli stadi, non ha ragione, ha 100 volte ragione. E anche Di Pietro l'appoggia. A proposito di Pietro, fra poco ti farò sentire un suo audio contro la trasmissione Report. Ancora. È vero? Anche si è scatenato. Che cosa ha detto sul Report? Ancora. Controlla. Ha detto che hanno fatto un taglia cuci e che parlerà soltanto accederà soltanto in vidi, soltanto in diretta, perché fanno taglia cuci. E noi abbiamo fatto taglia cuci, fanno soltanto taglia cuci. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano: Monti non si può candidare in Parlamento, è già senatore a vita. Il Premier: dall'Europa vogliamo lo stesso rigore applicato a noi stessi. Via l'accordo tra le parti sociali per aumentare la produttività, ma la CGIL conferma il suo no. Per la Camusso l'intesa penalizza il lavoro e ridurrà i salari. PDL: primarie il 16 dicembre, passa la linea Alfano nonostante i forti dubbi di Berlusconi. Centrosinistra: si vota tra 3 giorni, Bersani ospite del TG3. Carcere per l'autore dell'articolo, solo multa per il direttore, contro la norma introdotta nel disegno di legge diffamazione del lunedì, sciopero dei giornalisti. Il ministro Cancellieri: ci prepariamo a momenti difficili, sabato saremo in ferie, dicono i poliziotti, gli studenti in scena in una curiosa conferenza stampa. A Roma, ultra mascherati aggrediscono un gruppo di tifosi del Tottenham, 3 feriti, tutti inglesi, 1 grave, tifo violento e razzismo. Deriso su Facebook, additato come gay, a Roma un ragazzo di 15 anni si toglie la vita, la rabbia degli amici e il dolore sul web, lo ha ucciso l'ignoranza. Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire, le luci fanno ricordare. Meccaniche celesti. Adesso voi direte: io ce l'ho combattiato. Ci sono indizio c'è che lei ce l'ha combattiato. Ci sono molte cose di cui parlare. Queste frasi di Napolitano, secondo me, inaudite. Su Monti non candidabile, ma può essere chiamato dopo il voto. Scusate, ma se Cossiga avesse detto il mitico Cossiga, avesse detto la metà delle cose, o avesse fatto la metà delle cose che ha fatto Napolitano, ma sarebbe stato preso e portato al gabbio, messo in croce con i chiodi. E questa è la realtà. Poi, per carità, dobbiamo essere tutti grati, tra parentesi, forse, a Napolitano e a Monti di averci salvato da una situazione gravissima. Però quando Napolitano dice Monti non è candidabile, ma può essere chiamato dopo il voto, ma che ci azzecca? Ma cosa c'entra? Perché lo deve dire Napolitano? Perché deve mischiarsi nelle trattative politiche? Cioè, ma di che parliamo? No, ma poi soprattutto non ci sarà. No, ma poi il fatto, a parte che non ci sarà, ma il fatto che Monti non è candidabile non è vero, perché non è vero che i senatori, non sta scritto da nessuna parte che i senatori a vita non si possono candidare. Non c'è scritto in nessuna norma mondiale, in particolare italiana, non c'è scritto dappertutto. Alto monito del capo. Sì, qualcuno dice di sì, ma non credo, ci suggeriscono da fonti autorevoli che non è vero. A proposito di Battiato, dunque noi possiamo dire delle cose anche contro il Presidente della Repubblica. Beh, vabbè, se secondo me ha detto una stronzata, io posso dire c'è il reato di vilipendio vilipendio al capo dello Stato. Non vorrei che tra le tante cose di cui ci accusano ci sia anche il vilipendio al capo. Adesso faremo sentire una serie di cose contro la Zanzara. Napolitano Giorgio. Da Sgarbi, chi è che imitava benissimo Napolitano? Giorgio. L'ex portavoce di Podestà, il mitico Radic. Ah, certo. L'ex portavoce di Podestà, nonché portavoce di Formigoni, grande imitatore. Grande imitatore, fa benissimo anche Napolitano, dovremmo richiamarlo ogni tanto, però non possiamo svelare anche i nomi di chi sta dietro le nostre maschere. Vabbè, comunque, che abbiamo da far sentire? Sì, Battiato, intervistato a Radio Capital, soldi in beneficenza no, assessore alle meccaniche celesti. Va. Qualcuno l'ha definita assessore alle meccaniche celesti, già questo le piace un po' di più. Questo mi piace. Citando ovviamente una sua canzone. Quello che l'ho inventato. Basta con questa storia, assessore alle meccaniche celesti, Battiato, o fai l'assessore pagato, o fai l'assessore pagato, come deve essere pagato un assessore, oppure via, a casa, a fare i concerti, come hai detto, perché hai detto ho una fitta scaletta, non posso fare l'assessore a tempo pieno, e allora non lo fare, direttamente, fai l'uomo immagine, la Madonna Pellegrina della Sicilia, e di Crocetta, va benissimo. Ma non mi ha fatto nulla, mi sono scocciato di questi che dicono i politici fanno schifo e poi vengono nominati assessori. O la politica ti appassiona e fai l'assessore, oppure non è che fai quello che dice no, l'assessore alla cultura sì, però quel turismo sì, lo spettacolo no, c'ho la mia tournée. Ma di che parliamo? Deciderà Crocetta se vedrà la responsabilità di questa. Senti, di questa abbiamo intervistato Proto, te lo ricordi? Signor Proto, come no? A uno dei candidati. È indagato, signor Proto. Sì, appunto, l'hanno subito pizzicato per. Ma mica dopo l'intervista alla Zanzara. Beh, però. Pochi giorni dopo, insomma, si è esposto alla Zanzara e subito dopo è arrivata la mannaia della Proto, primarie ridicole. Poi tra l'altro uno non può dire le primarie sono ridicole, cioè prima ti candidi e poi dici le primarie sono ridicole. Proto, voglio tornare un attimino al discorso di prima delle primarie del PDL che sono ridicole, come ha detto il direttore Felt. Vabbè, questo era Proto, mi sembra già fatto fuori. Allora, Samori, c'è stato un duello nei giorni scorsi tra Samori e il signor Crosetto. Sì, signor Crosetto. Perché a Crosetto è scappata la parola Ciocorì. Sì. Samori, Crosetto mostri i suoi redditi e le proprietà sue e della sua famiglia. Perché Crosetto aveva detto, ha un passato poco chiaro Samori. Allora, Samori si è subito arrabbiato, mostri i suoi redditi, sentiamo. Io sfiderei il dottor Crosetto, lui e la sua famiglia, a venire qui da lei con le dichiarazioni dei redditi, gli atti di acquisto, la loro storia e la mia storia. Poi vedremo davanti a tutti chi ha una storia non chiara e chi ha una storia totalmente limpida. Allora, siccome Guido Crosetto è spesso nostro ospite, noi giriamo l'invito, vediamo che cosa risponde. Lui e Crosetto. La sua famiglia. Ma perché dice questo? Cioè, dico questo perché. Non ho nessun dubbio. Ecco. Uno che lancia un'accusa generica dice persone dal passato poco chiaro deve essere più limpido dell'acqua. Beh, queste sono accuse, no? Messaggi in codice. Si vogliono cioè, Crosetto e la famiglia hanno delle cose da nascondere. Si vogliono bene lì dentro. Bah. Vedremo fra poco. 800240024, qualche ascoltatore. Ma vogliamo sentire di nuovo Sgarbi contro di noi? Sì, beh, Sgarbi di oggi della signora. Cioè, noi innanzitutto abbiamo la notizia è questa: abbiamo fatto saltare l'alleanza tra Samori e Berlusconi, sì. Secondo Sgarbi. Beh, non è che voglio dire una cosa fondamentale per il paese. No. L'alleanza Samori Berlusconi. No. Quando la sera quei due tangheri, quei due minorati di Crociani e di Parenzo, cioè dei poveri deficienti, quei miei simpaticissimi colleghi che fanno la Zanzara, sì, quei due dementi imbecilli, quei due poveretti. Sgarbi, vuol dire alla sera gli chiediamo delle cose a Samori, Berlusconi si arrabbia per queste cose che gli vengono ovviamente riferite e da qui salta l'accordo tra Sgarbi, Samori e Sgarbi è incazzato semplicemente perché si sarebbe c'è un posto nel mio condominio, se vuoi candidarti Vittorio ti lancio un appello, nel mio condominio a Roma dove abito c'è un posto libero come portinaio, però fanno ovviamente candidati come amministratore di condominio, quindi lì col braccio rotto cretino, capra ripara il termosifone, cretino. Poi c'è anche qualche soldino da beccare. Il condominio è perfetto. Si è candidato ovunque, si è candidato. Ovunque. Gira le trasmissioni come una Madonna Pellegrina con quel braccio rotto, minacciando giornalisti della stampa estera, urlando. Vittorio, riposati, hai una certa età. Pennacchi contro la Zanzara. No, in realtà non è contro la Zanzara, però sentiamo. Contro di me, innanzitutto. Sei ricovero dall'AIA, non so per che cosa, per la storia di Grillo, sì. considerare gli altri esseri umani come oggetti tuoi è come considerarli schiavi ed è contrario ai diritti del, naturali dell'uomo. E tu sei da tribunale, tu sei da tribunale dei diritti dell'uomo. Bravo. Tu sei da essere rinchiuso e ricoverato all'AIA come i criminali del tutti quelli. C'è anche Grillo, allora anche Grillo se proibisce i suoi di andare in televisione. Basta. Sì, ma pure a te che mi stai rompendo. Va bene, 800-24-00-24, Sergio da Napoli. Sergio, dica. Buonasera. Vada. Niente, nel discorso di Napolitano effettivamente è così, se l'avesse fatto un Presidente della Repubblica di prima. Io adesso non sono così. Sì, sarebbe stato sicuramente aggredito. Sicuramente. Però il punto è un altro. Per me è anche libero di fare quello che vuole. Cioè, d'accordo. In un concetto così abbastanza liberale, che purtroppo però questi personaggi napoletani. Cioè, Libo ha voluto dire: Monti rispetto, è mio e non me lo toccate, capito? Monti è roba mia. Viene comunque da quella scuola lì. Allora, viva Renzi da una parte, il Bersani no. La signora che è stata prima intervistata prima del TG, linguaggio antiquato, linguaggio vecchio, non ho capito il nuovo dove sta, non lo porta neanche Bersani. Vendola per esprimere un concetto ci mette tre quarti d'ora e quindi neanche va bene. Battiato deve fare il cantante, Grillo deve fare il comico. Sì. Insomma, ma lei va a votare per le primarie del PD o del PDL? Io vado a votare per le primarie del PDL e sono molto confuso. E chi vota? Chi vota? Io non credo che voterò Alfano perché è l'unico politico penso che ci sia. Beh, insomma, non è che c'è solo Alfano. Tra poco arriva un candidato che sta diventando pesante. Già è pesante di suo, anche se un po' dimagrito. Però, insomma, sta diventando pesante perché si prospetta, caro Parenzo, un tandem, un ticket. Addirittura. Un ticket, sì, un ticket. Forse addirittura tre insieme, tre moschettieri. Una mucchiata fanno. Una mucchiata. Che roba è? Zanza. Però Di Pietro Vero lo vogliamo riascoltare? Vogliamo sentire? Non su Report, non mi sono piaciuto, ma sa tagli e cuci, eccetera, perché l'aveva già detto. Sentiamo la selezione naturale della specie politica, cioè alla fine nell'Italia dei Valori c'è stata una selezione naturale della specie politica. Diciamo la verità, anche con questa frase, con questo appoggio alla cancellieri di oggi, perché ha detto di essere d'accordo con l'arresto di Ferito, e anche noi siamo d'accordo con l'arresto di Ferito, della cancellieri, e... Di Pietro sta cercando di accreditarsi presso il centro-sinistra più moderato, con Bersani, aveva già detto prima. Di Pietro, selezione naturale della classe politica. È la selezione naturale della specie politica. Ci auguriamo che la prossima legislatura possa esserci una legge elettorale che dia la possibilità ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa. Poi insiste su questa cosa del cappellano, cioè per citare, cioè per dire che ha fatto qualche che ha fatto qualche una delle candidature. È due giorni che parla del cappellano di San Vittore arrestato. Ma cosa c'entra il cappellano di San Vittore arrestato? Dicendo che anche i cappellani possono sbagliare, e faceva messa con scuola, cioè anche le alte gerarchie si possono sbagliare nello scegliere i loro discepoli, diciamo, no? I loro sottoposti. Ma non c'entra assolutamente niente. Sono due cose diversissime. Cioè, sentiamo. In Di Pietrese, che io possa avere sbagliato e abbia sbagliato, per l'amore di Dio, non so se avete letto il giornale stamattina, ho visto la fotografia del cappellano del carcere di San Vittore che stava dicendo messo insieme al cardinale Scola qualche settimana fa. Stamattina l'hanno arrestato perché faceva violenza sessuale con i detenuti e quant'altro. Quindi voglio dire che ci stavano... I 12 apostoli, ce ne stava pure uno che si chiamava Giuda e che tradiva. Va bene, primarie del PDL fissate per il 16 dicembre, anche se mi dicono di una riunione, mi hanno mandato un SMS di una riunione in corso, con un Berlusconi furibondo. Berlusconi furibondo non vuole, nonostante il fatto che dicono che abbia accettato, eccetera, eccetera, continua a opporsi alle primarie. 800-24-00-24 è con noi uno dei candidati, Guido Crosetto, PDL, buonasera. Eccolo. La introduciamo con questa canzone. Il gigante buono. Senta, a proposito di gigante. il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento. In un giorno senza tempo camminavano tra i sassi. Lo sa chi ci camminavano tra i sassi, poi i sassi sono tutti questi vecchi burocrati del PDL, no? Questa grande il metafora. Gigante sarebbe Guido Crosetto, già sì. Shrek. Sì, già sì, Shrek. Sì. Guardate che questa volta vi ho portata in mano, quindi. Cioè, normalmente mi prendete per il cellulare, adesso invece ci vuole se allargo ci le vuole, braccia ci stanno tutti e due. Ha delle mani enormi, esatto. Crosetto, ha delle mani non solo per ricordarvelo. Delle mani enormi, ma anche segnate. C'ha un pollice. Me lo sono preso in una torta. Un pollice. Chi è stato? Verdini? No, da solo. Da solo. Ma il gigante, la bambina sarebbe la Meloni, perché gira voce, corre voce, che lei potrebbe andare in ticket alle primarie, credo con la Meloni candidata, insieme all'ex missina Giorgia Meloni. È vero o no? No, per adesso no, siamo tutti e due. No, per adesso. Se lei no, ci nel dice, senso. Cioè, se lei ci dice per siamo, adesso. No, ci sta pensando. No, no, ci sta scusate, pensando. Ha ragione, grazie per avermi corretto. Appunto. No, siamo tutti e due candidati. Cioè, lo esclude? Sì, mi pare di sì. Io sono no, candidato. Mi pare di sì. Ma sono candidato. No, tentenno per il semplice fatto che devo dire, non riferito a questo ticket, riferito al fatto che voglio vedere domenica chi saranno i candidati. Come ho detto, io lo faccio per portare avanti delle idee. Se mi trovo della gente la cui compagnia non ritengo adatta, non mi riferisco sicuramente alla Meloni o ad Alfano. Non si candida nemmeno. No, perché c'è un vecchio un libro, erano le regole di Murphy, ve lo ricordate? Sì, la legge di Murphy. Non parlare mai con degli stupidi, perché guardandoti da fuori qualcuno potrebbe non capire la differenza. Elenco no? di stupidi, allora. No, a questo punto lei ha detto... Siccome prima ho sentito, mentre vi aspettavo le... Samori? Sì, e il primo degli stupidi è Samori. No, non era questione. Ma come no? Allora, questione di informazione, vede, dovrebbe sapere uno che si candida a fare presidente del Consiglio Samori? Che chi è parlamentare l'obbligo di dichiarazione dei redditi patrimoniale ce l'ha, di pubblicarla alla Camera e renderla pubblica. Di fatto tutti gli anni. Dunque è ignorante Samori da questo punto di ignora vista. Ignora i meccanismi istituzionali. È ignorante, dice. No, ignora. È importante questa meccanismi. Per cui gli spiego, visto che vuole candidarsi a presidente del Consiglio, che è già obbligo per i parlamentari rendere pubbliche queste cose tutti gli anni e poi vengono normalmente sparse su tutti i giornali. Ci sta dicendo che se Samori è candidato lei non si candida? Ribadisco quello che ho detto. Lui si è offeso perché ho detto che è un fungo e non capivo come fosse... Un fungo allucinogeno? No, un fungo, che era nato come un fungo, non voleva essere un'offesa. Ha detto anche Cioccoli, ha detto. Certo. Non ho detto Cioccoli, mi è scappato e mi sono subito corretto, perché qualcuno prima mi ha fatto la battuta, Cioccoli. Mi era rimasta in mente, chiedo scusa. Allora, a me mi chiamano Shrek, non mi offendo, questo lo chiamo Cioccoli. Lei si è autochiamato? No, non mi sono autochiamato, è stata Striscia la Notizia, guardate, quindi... Mica mi sono offeso, no? Potevo offendermi, non mi sono offeso. Quindi non si offende, è una battuta simpatica, è più simpatico. Vabbè, se c'è Samori, almeno uno se lo ricorda. Quali sono questi stupidi? Io ritengo che debba essere una cosa seria, fatta da persone serie, che non si sono inventate, che passavano davanti alla sede del PDL, hanno suonato il campanello, come è successo di alcuni. Poi ho visto la magistratura, hanno subito capito cosa significa fare politica, perché hanno alzato la testa, uno ha già ricevuto la visita. Anche Samori è indagato, Perché comunque non è che fare politica, io la faccio da qualche anno, ed essere pulito significa che uno lo è. Perché come dimostrano alcune candidature, appena uno entra in politica ti fanno i raggi X e uno deve essere sicuro di superare i raggi X almeno per poter dire qualcosa. Però lei prova un po' di imbarazzo per alcuni compagni di strada, questo ci sta dicendo. Provo imbarazzo perché ritengo che il centrodestra debba essere una cosa seria, come lo deve essere il centrosinistra. E dunque, con chi è che non è serio la primaria? Con chi è che non sarebbe serio? Le faccio un esempio banale. Se lei andasse, se lei vedesse una persona che arriva e le dice, guardi, io sono il più grande conoscitore della finanza. Sì. Entra in un'azienda e si trova davanti uno di quei macchinari enormi, no, che stampano, pieni di pulsanti, dice, ma siccome io sono bravissimo nel mio lavoro, adesso vi faccio vedere come funziona questa macchina. Lei dice, ma lei l'ha già usata questa macchina? No, però io sono bravissimo nel mio campo. Lei dice, guarda, lascia perdere, perché se non l'hai mai fatto e non la conosci, non farlo. Mentre invece quando qualcuno... Sgarbi, per esempio. Mentre invece Sgarbi quando qualcuno che magari non sa neanche cosa sia una delibera, non sa come sia organizzato lo Stato, non sa cosa sia la pubblica amministrazione, dice, vengo io e risolvo tutto. La gente non fa la stessa cosa. Lo farebbe di fronte a un macchinario, lo farebbe di fronte a uno che guarda una casa e dice, ma sì, questa vale così, senza vederla dall'interno. Ma se uno lo dice sulla pubblica amministrazione, che, dimostrando di non conoscerla, tutti prendono per buono quello che dice, no, ci penso io. No, cioè, come ogni lavoro bisogna che uno conosca, sappia come è fatto. Primarie piene di incompetenti ad oggi. Questi nomi qui... Vorrei gente competente. E metto sul campo ad Alfano... tranquillamente la fanno sì. al PDL, il fatto di essere disposto, pur di far sta fuori qualcuno che non ritengo all'altezza, di eliminarlo in due, cioè non lo dico per eliminare un concorrente, sono disposto anche a dire me ne vado anch'io se fate se, se ne va qualcun altro. Per esempio, se Sgarbi c'è, vediamo intanto chi raccoglierà i 10.000 firme. Ma se Sgarbi c'è, serio o no la cosa? No. A un dibattito come quello di Skype, suppongo che Vittorio difficilmente risponderebbe alle domande, ma renderebbe la trasmissione molto più viva di quella che è stata il PD. Ma non è quella la risposta che si aspetta il paese. Dunque, se c'è Sgarbi, lei può darsi che non ci sia. Adesso non è Vittorio il problema. Non è Vittorio il problema. Ma non penso neanche sia. Non penso neanche sia sua volontà raccogliere le firme per farlo. Lei quante firme ha raccolto fino adesso? Penso 15-20 mila. Dunque, ci siamo. Insomma. Sì, sì. Con le firme ci siamo, il ticket lo escludiamo al 100%, con la Meloni non ci sarà nessun ticket, diciamolo. No, penso proprio di no. No, diciamo, no. Penso proprio di no, mi lasci dire così, perché siccome in questi giorni qualcosa, sì. qualche motivo di arrabbiatura cioè, l'ho ecco, avuto, ecco, per esempio, ma e lei mi conosce, sa che la mia arrabbiatura può portarmi a fare cose che normalmente cioè ad allearsi anche con può portarmi a fare cose che normalmente persone lontane magari dalla sua cultura, ma che se Berlusconi la spunta, sì. perché sembra che ancora ci stia sì. No, io lo escludo, questa cosa secondo me non è vera. Berlusconi ha preso atto che il PDL vuole fare le primarie, che la data è stata fissata, è in minoranza in questo momento Berlusconi. Ha preso atto di una cosa non è minoranza, lui la reputa, ma non solo lui, sì. difficile da organizzare. Il PD ci ha messo un anno e mezzo a organizzare le primarie e ha 62.000 volontari per farle, noi in 20 giorni le facciamo, è una cosa dal punto di vista organizzativo, non politico, veramente difficile. Allora, siccome lei si candida alla guida del PDL, fino adesso i leader del PDL hanno avuto una caratteristica. Io non mi candido alla guida del PDL, primarie come? Non servono per quello. No. Ah, la presidenza del Consiglio? Servono per indicare una via politica. Vabbè, sì, ho capito. Per il Paese. Cioè, d'accordo, beh, ma... la guida di un partito e dunque la guida del Paese, in teoria la guida del Paese. Ma fino adesso, insomma, il leader del PDL è stato Berlusconi, ha avuto alcune caratteristiche. Per esempio. Ah, sì, sì. Per esempio sì, così. Lei è un uomo fedele? Sì, assolutamente. No, parliamo dal punto di vista coniugale, diciamo. C'è un altro punto di vista. Non dalla fedeltà politica, la fedeltà no, sulla fede in Dio. Sì. Noiosamente fedele. Fedele. Quindi già qui è poco carichi PDL. Carichi pendenti? Nessuno. No, nessun carico. Indagini in corso? Nessuno. Ma che cazzo ci fanno PDL? Andiamo scusi, male. Andiamo male. Nulla. È un'anomalia, diciamo la verità. Ma neanche mai una multa in doppia sosta, qualcosa avrà fatto? No, multe. Eccesso di velocità, posso fare. Addirittura, come mai eccesso di velocità? Perché va da lei in certi tratti dove ti giri la curva, fino prima della curva c'è il 90, dopo c'è il 50 senza avviso, ma penso che non sono lui. No, qualcuna eccesso di velocità ne ho alcune, ma non da ritiro di patente, 5-10 km. Beh, cosa, poca roba, insomma, no? Vabbè, sì. E per cui, non mi sembra adatto. Non aveva un profilo del candidato tipo del PDL. No, anche perché, come dicevo prima, sarebbe emerso. Vede, ci sono persone che fino a un mese fa erano sconosciute. Ci sono candidate ed è emerso di tutto sulla sua vita. Su di me sarebbe già emerso di tutto, quindi c'è poco da emergere. Senta, lei ha detto che nel PDL ci sono degli impresentabili. Sì, l'ho detto a voi forse. Sì, non mi hanno parlato per due settimane. Chi sono gli impresentabili? Basta. No, ma qui potete farmelo tutte le volte. I nomi li vogliamo. Ma l'ha detto anche recentemente, no? A noi. No, questo... me lo lasci dire nei prossimi giorni. Allora, giriamo la domanda. No, ci sono delle persone che, secondo me, hanno perso la fiducia dei cittadini e siccome i partiti si presentano intanto per poter dialogare con i cittadini, benissimo, sono persone che con la loro presenza rendono impossibile il dialogo. La Russa? Non fatemi nomi. È presentabile la Russa, secondo lei, davanti agli elettori del centrodestra? È presentabile o no? Guardi, almeno la Russa ha un pregio enorme, che è un galantuomo ed è un uomo di parola. Poi ha perso la capacità attrattiva in una parte della destra, perché c'è un diritto, ma la Russa è un galantuomo. Cioè, quindi, visto che lei prima mi ha fatto alcune domande, la Russa è un galantuomo. Però non mi venite qua sempre per farmi fare qualcosa. No, ma perché adesso ormai siamo andati nel vivo delle grandi questioni. Il vivo, secondo me, sono gli artigiani, i commercianti. Vabbè, ma quello va a parlare in altre trasmissioni. Ma anche voi, ma guarda che quelli che vi ascoltano sono normalmente quelli che stanno tornando a casa del lavoro e a quest'ora a casa del lavoro tornano quasi... Si vogliono un po' divertire, le assicuro che si vogliono un po' divertire. Sì, ha ragione, altrimenti non vi ascolterei. Si vogliono un po' divertire. E allora se vogliono farli divertire possiamo anche fare qualcosa di fisico un po' più violento. Come di fisico violento? Può darsi che ci arriveremo. Prendo le difese di tutti questi... Cosentino è presentabile? Chiedetelo a qualcun altro. Ma come chiedevano a qualcun altro? Ma lei si immagina ancora in un partito con Cosentino? Questo si può dire. Cioè si immagina ancora. Mi fate iniziare le primarie così mi sentite. Toglietemi i temi delle primarie. Dell'utile. Ah, perché questo sarà un tema delle primarie? No, marginale, ma è il tema del partito degli onesti è un tema suo delle primarie. Non solo mio, penso che debba essere tutti i partiti. Cioè, no, delle persone che si presentano dicendo, guardate, sono noiosamente pulite. Oh. Cioè, noiosamente non ho un avviso di garanzia, noiosamente non ho una condanna, oh, noiosamente non ho fatto nulla di male, perché in realtà poi ognuno ha fatto qualcosa, sì, di male. Io ho delle cose della mia vita di cui mi pento, ma ho fatto degli errori nella mia vita. Ma sono divorziato, ma con la mia ex moglie ho un rapporto stupendo. Vabbè, quello. Vabbè, non è che questo glielo è, è uno dei tanti fallimenti. Con la mia compagna attuale ci litigo 27 volte al giorno, però la amo lo stesso. Per cui? Beh, non sarà spero che ascolti. Questo non sarà un tema delle primarie. Dell'Utri? Che cosa? Dell'Utri, se lo immagina essere un partito con Dell'Utri? Ma sa, poi c'è un altro tema al di là che è quello della giustizia. Quello della giustizia, no, c'è un altro tema. Poi ci sono persone, io ritengo che dopo 20 anni di Parlamento, indipendentemente, al massimo, anche la persona più, anche fare, la persona più, no, c'è una questione anche di età. Io penso che 70 anni uno possa anche tranquillamente andare a casa. Berlusconi, dove se lo immagina la prossima legislatura? In Parlamento oppure fuori dal Parlamento? Berlusconi, visto l'attacco che gli stanno rinnovando, lo penso al Parlamento. Pensa, perché... è giusto secondo lei che sia in Parlamento? Beh, io se avessi avuto tutti gli attacchi che ha avuto Berlusconi, probabilmente non sarei neanche più in questo paese, ma questo è un altro discorso. Ah, lei sarebbe scappato all'estero? No, no, scappato, non scappato. Nel senso, si sarebbe... si sarebbe rifugiato all'estero? No, avrei detto basta, cioè non è sopportabile questo... Vado, chiedo esilio, vado, però, vado, ma che esilio? Non c'è bisogno di chiedere esilio, è un uomo libero, è un uomo libero. Il posto giusto, secondo me, per Berlusconi è al Senato nella prossima legislatura? Oppure fuori dal Parlamento, perché basta in Parlamento? O lo farebbe solamente per proteggersi? Ma no, per proteggersi non ha bisogno, perché lei sa benissimo che poi alla fine, come hanno dimostrato alcuni miei colleghi, non è che il Parlamento protegge più nessuno. Quindi. Cioè, se lei guardi cosa è successo, soltanto andatelo a dire a Cuffaro che il Parlamento protegge, scusi. Andatelo a dirlo a Papa che il Parlamento protegge. Beh, Papa, infatti, ha pagato per tutti. Quindi, non è questo. Papa ha pagato per tutti. Io penso che Berlusconi ci sarà nel prossimo Parlamento. Penso che il contributo che possa dare sia, ma ad esempio, io ho ascoltato il discorso di Germetto, quando lui dice Villa Germetto, come si chiama? Ah, di Villa Germetto. Come si chiama? Libera Università. Guardi che io non sono uno studioso della biografia berlusconiana, mi piace l'economia e la finanza. Ma quella è la Libera Università di Berlusconi, Villa Germetto. Sì, però io non ci vado, non ci sono mai andato in quella. Però dico, non è che le cose che ha detto lì, ad esempio, sulla possibilità di chiunque governi di gestire il paese, sarebbe una cosa che dovrebbero fare proprio tutti i partiti. Perché ha detto le cose vere. Era trasfigurato a Villa Giornetto, però quel giorno là. Ma poi, cioè, perché lei ha detto che l'euro è un campo di concentramento? Mi è venuto male come paragone. È un luogo dove nessuno si trova bene e da dove uscire, se uno provasse a uscire, muore. Ma perché secondo lei è l'unico paragone che mi è venuto in mente. Perché non c'è nessuno che in questo momento, dopo 10 anni, abbia avuto da questa moneta qualcosa di positivo rispetto a quello che c'era prima, però uscirne vuol dire, mentre stai cercando di scappare, morire. Perché lei lo farebbe un referendum sull'euro ancora oggi? Essendo questa la mia idea, cioè ritenendo che uscire voglia dire morire, non farei un referendum per decidere come suicidarmi. Quindi il problema dell'euro è un altro, e che va fatto e che Monti non ha fatto, e che non si può dire e nessuno lo dice. La stessa moneta, che in Germania una persona uguale a lei, identica a lei, quando va in banca paga il 2%. In Grecia paga il 9%, in Italia paga il 7%. La stessa moneta, una persona identica a lei. Allora, come pensa l'Europa di tenere assieme i popoli quando aziende con le stesse caratteristiche, a seconda dello stato in cui hanno, pagano il denaro magari 3, 4, 5 volte? Cioè, una cosa che uno non pone in questi termini all'Europa, non riuscirà mai a mettere insieme l'euro. Secondo lei è realistico uscire dall'euro, oppure è una cosa impossibile? Secondo me, io ritengo sia impossibile. Poi ho un Ma è impossibile, è un danno questa cosa qui? Oppure pensa che l'Italia debba uscire dall'euro? No, io penso che purtroppo non possiamo uscire dall'euro. Che è un'altra, per quello ho fatto pagare. Ah, purtroppo non possiamo uscire. Ma chi uscire? La propone è un pazzo. Beh, purtroppo, nel senso che ormai c'è... No, pazzo è una parola grossa. Ma mi incontrerò con questi due economisti che... Chi è? Signor Barnard, chi è? Questi due economisti che sostengono questa cosa per confrontarmi con loro. No. Perché ritengo sia giusto... Ma dicono che Monti è un criminale. Alcuni dicono che Monti è un criminale. Ma mica parlerò di Monti. Voglio capire la teoria. Anche per lei è un criminale. Vuole capire la teoria. Lei mi ha mai sentito dire che Monti è un criminale. Ma quindi lei incontrerà questi due economisti che sostengono l'uscita dall'euro. Si porti due infermieri, però. Ma chi sono questi economisti, signor Barnard? no, poi, guardi, chi sono questi economisti? No, adesso dica i nomi. Non mi ricordo il nome. Ma come non si ricorda i nomi? No, incontrato persone non si ricorda i nomi. Così. Sì, la roba davanti. Sì, vabbè, no, è una delle tante che faccio, quindi come voi sapete. Quindi. E quando li incontra questi due economisti? Devo fissare l'appuntamento, perché sono curioso di ascoltare. Beh, chiamate la Zanzara, fissate l'appuntamento in diretta. Chiamate l'ambulanza, che si porta dietro qualche medico. Sì, qualcuno si ma guardate, intanto un pezzo di verità c'è in qualunque tesi, per cui sono curioso di ascoltare. Ho letto però su Die Zeit che i tedeschi hanno fatto la stessa cosa. Cioè, cosa sarebbe per la Germania uscire dall'euro? Con risultato ma inverso. Per noi sarebbe una cosa favorevole. Sì, posso o no, solo dire lei? Questa cosa, che così le spiego anche cosa doveva fare Monti. Sarebbe distruttiva per i tedeschi. Cioè, il marco si apprezzerebbe talmente tanto che l'economia tedesca sarebbe. Il che vuol dire che per loro è molto favorevole. Che il rischio per loro. Il rischio per loro è superiore al nostro di un'uscita dall'euro, e che quindi il vantaggio per loro, come dimostra il loro tassista, è superiore al nostro. Ed è questo il ruolo che probabilmente in questi anni l'Italia avrebbe dovuto avere quando si sedeva al tavolo con la Merkel, con i tedeschi e con l'Europa. Dire che la stessa moneta non può uccidere uno Stato e avvantaggiare Monti, troppo un altro. Lo vede al Quirinale? Ma come lo vede nella prossima legislatura? Non lo so, cioè, oggi ho sentito il Presidente della Repubblica che ha indicato una strada per cui potrebbe essere di nuovo Presidente del Consiglio. Lei non se lo augura, evidentemente. Poi, guarda, io non ho nulla con Monti, cioè, perché anzi, mi sembra una persona seria, anche molto simpatica. Una volta, incontrandomi alla Camera, un giorno mi ha detto una settimana che non vedo di sue dichiarazioni contro di me, è stato male, ero preoccupato se per le lei. Segna, allora. Quindi una persona simpaticissima. Se le segna quasi. Però, quindi non ho niente con lui. Gli atti di questo governo, secondo me, sono stati non positivi per il Paese. Mettete il gigante alla bambina per concludere. Il gigante alla bambina. Voglio sentire il gigante alla bellissima bambina, perché mi attrae. Canzone, è bellissima. Oggi ne avete combinata un'altra al Senato, è un'altra porcheria avete fatto. Avete, cioè adesso. Lei l'avrebbe votata. Non lo so cosa hanno combinato. No, l'ammazza sentenze. Il PDL ci riprova, vuole introdurre il quarto grado di giudizio retroattivo. Retroattivo, il quarto grado retroattivo. Dica qualcosa di definitivo su questo. Dica, non possiamo più votare. L'ha già detto Sandro Bondi, ma penso sia un'iniziativa di una persona in cui il PDL. Quindi non è un pirla quello che ha proposto sta roba. Ma ce ne sono tanti di pirla. Ma questo è uno di quelli. Non so che sia neanche. Ma proporre il quarto grado di giudizio retroattivo è una ennesima pirlata. È una pirlata o no? Diciamolo chiaro. È una cosa senza alcun senso. Ma non penso che nessuno serio l'abbia seguito. Cantiamo il gigante della bambina. Con le tenere radici, con le tenere radici. Quanto ha a che fare lei con la Meloni? Zero, politicamente? Poco, mi dica la verità, poco. Beh, abbiamo due storie totalmente diverse. C'è una cosa che in questo momento ci lega. E cosa? Io sono convinto che si possa uscire da questa crisi solo avendo... Da una parte, mi passi il termine, un liberalismo selvaggio per le aziende, e dall'altra una attenzione alla parte più debole del paese, che è propria della destra sociale. Dunque il ticket ci potrebbe essere. Voi mi mettete in mente una cosa. Il 16 dicembre, chi l'ha fissata questa data? Chi l'ha voluta? Penso Alfano, La Russa. La Russa soprattutto. Cioè, no? Gli ex N hanno vinto una partita fissando questo il giorno, il 16 dicembre. Troppo presto. Sono due mesi che parliamo della data, cioè 15 giorni che parliamo della data, almeno fissarla. È già qualcosa. Ma hanno imposto questa cosa qui? Beh, è una data che per quelli che non hanno struttura come me rende molto più difficile la partecipazione alle primarie. Dunque vi danneggia, cioè favorisce Alfano il 16 dicembre, una data che favorisce Alfano. Favorisce quelli che hanno la struttura del partito. La nomenclatura. Ci fanno segno che dobbiamo finire, così io mi sottraggo a voi due e posso, staccati i microfoni, fare quello che molti telespettatori pubblicità vorrebbero. Tirarci due cazzotti. Oh, ma sai che l'ospite che è appena uscito, signor Guido Crosetto, è stato tra l'altro oggi a lungo a chiacchierare con Berlusconi. È stato un lungo colloquio con il signor Berlusconi. Vabbè, normale. Che ha detto che appoggia la sua... No, non è vero. Ovviamente non sappiamo nulla di questo colloquio che è riservatissimo. Va bene, alle 8 in punto... Meglio incontrare Crosetto che le solite oggettine, cioè lo reputo un atto politico. Vabbè, da questo punto, da questo ogni punto tanto di vista, si occupa di... La notizia è che ogni tanto anche Berlusconi si occupa di politica, incontrando Crosetto, cercando di informarsi un po' su cosa succede. Ma incontra tante persone, ha incontrato Crosetto, poi ha incontrato altri candidati. La Began, tanta gente, ogni tanto dedica una piccola parentesi della sua vita anche alle questioni del partito. Va bene, Maria da Barletta, buonasera. Buonasera, salve. Ecco, io intervengo. collegandomi al discorso che faceva Crosetto, la signora lì candidata in questo momento, oddio, ho dimenticato il nome della politica, mi pare comunque l'unica politica che stia a destra, la signora ex Alleanza Nazionale. Meloni. Per il resto, questi politica forse ne sanno veramente poco. Comunque, questa è una parentesi. Ecco, io chiamo perché ieri mi ci ha un po' tirato per i capelli il dottor Parenzo, perché avevo un entusiasmo sviscerato verso Bersani. Ecco, premetto che sono di sinistra io, quindi non voglio che ci siano equivoci sull'appartenenza politica. E il signor dottor Parenzo era entusiasta di Bersani, ha detto che è stato un grande ministro. Per me, quando era ministro, invece è stata una grande delusione Bersani, in quanto le liberalizzazioni sono un atto di destra estrema praticamente. Ma che destra estrema? Ma quando mai? Ma basta con queste categorie destra, sinistra. Ma ha favorito solamente i grandi poteri. Cioè, ma non è vero. Faccio un esempio. Le banche, ad esempio, stanno invadendo anche gli altri settori, stanno appropriando di parte del mercato che erano anche lavoro di piccoli cittadini. Cioè, fanno le banche, fanno le assicurazioni, gli stessi soci fanno gli allarmi, non so cos'altro devono fare. Le va bene, però si può non parlare delle liberalizzazioni di Bersani, che è una cosa vecchia, passata, antica, superata, eccetera? Cioè, si può parlare d'altro? Però lui ci ha buttato le basi con un Monti che sta perfezionando il tutto. Ma magari Monti avesse fatto liberalizzazioni serie, profonde, magari, di più Bersani, magari, le avesse fatte. Antonio da Milano, buonasera, grazie. Antonio. Buonasera. Buonasera signor Cruciani, io l'ascolto spesso e volevo domandarle perché ha dato così spazio ieri a quel burino romano. Non si permetta, non si permetta, è un grande, premio strega, un grande intellettuale. Si allora, uno parla un romanesco e allora, qual è il problema? Comprensibile. Ma qual è il problema? Scusi, non è capace, Antonio, di fare un ragionamento logico, conseguenziale. Ma di che sta parlando? Ma di che parla? Ma non è vero. Ma non è vero. Divertente, l'ho trovato abbastanza divertente. Ma, ma è quella la cosa, ma a parte che non è vero. Perché come comico se la cava. Come notista, diciamo così, mi sembra veramente a un livello... Scusi, lei è veramente ignorante. Il grande Gioacchino Belli, uno dei più grandi poeti dialettali, oppure il grande Carlo Porta, intellettuali che usavano il dialetto. Ma che dice? Beh, Pennacchi usa il linguaggio colorito e la sua lingua, il dialetto romano, no? Come il Porta, come il Belli. E il dialetto del poeta, ma sono quale due dialetti diversi. Ma comunque qual è il problema? Non ho capito. Che no, cosa che non le piace di Pennacchi? È stato un grande momento di radio, un grandissimo momento di radio. Ah, io mi sono fatto un po' di risate, però alcune affermazioni. Guardi che le faccio risentire, senta che cosa ci ha detto Pennacchi ieri. Pennacchi. Ruggisce tutta la notte. La politica significa tener conto anche degli altri, unire tutte le forze. Ma allora, Cruciani, io dico mi sto stacca zitto, ma che mi graffia tutto. Ancora. Senti, tu non mi puoi invitare e poi interrompermi in continuazione. State zitto e fammi parlare. Fallo parlare. Allora, questo è squadrismo. Allora, quello tuo è squadrismo. No, questa cosa tutte le volte. Non mi rompi i coglioni. Sei riuscito a trasformarlo. Queste sono le mie regole. Se tu vuoi partecipare al mio movimento, non vai in televisione. Non partecipare. Oh, perché la rifa? Questa non è democrazia, questa è dittatura. Allora, ma qua è dittatura. Ma io pure a te, te butto la finestra pure a te. Ma qua culo. Tu c'è stata la mattina alla sera in televisione, tu l'hai fatta, ma quale io dittatura? Non ci posso andare. Ma che stai dal numero davvero? Questa è la democrazia. Ma questo è un paese democratico, ci vuole il controllo sulle cose, il controllo di tutti. E non può essere che lui è l'unico ente che decide. Allora, proibisce a quelli, ai suoi. Proibisce ai suoi. I suoi, e che se li ha comprati al mercato? Sì. Che lui è per la difesa della famiglia, certo, eccetera. Contro il divorzio. Per la difesa della famiglia mia, la tua e la sua. Fuori che è la sua, perché lui c'ha una moglie a Bologna con non so quanti figli, poi l'ha lasciata e se ne è fatta un'altra Roma. Allora tu divorzi e ti separi, fai tutte le mogli che ti pare, poi vieni a rompere i coglioni alla famiglia mia, al matrimonio mio. Ferrara è innamorato della Berlinguer, Giuliano Ferrari è innamoratissimo. E allora questo sarebbe un motivo per sfidarlo a duello. Ferrara invece non mi sta simpatico. Sei riuscito a trasformarlo. Antonio, ecco, l'hai spiegato il motivo perché abbiamo dato spazio a Pennacchi. Alessandra da Milano, buonasera, grazie. Ancora Alessandra da Milano. Buonasera. Dica. sì, io volevo dire a proposito dell'arresto in differita, sì, che dovrebbe esserci il dovere per tutti di agire bene e quindi la possibilità anche di identificare gli agenti, non solo i dimostranti, con dei numeri identificativi. Io sono contrario agli identificativi, sono contrario ai numeri identificativi della polizia, contrarissimo. Beh, io invece sono favorevole. E lei è favorevole, la polizia, e dunque i vigili a Milano fino a 15 anni fa avevano uno stemma con dei numeri semplici di 4 cifre, sì, per cui si potevano, guardi, identificare. Il problema non è quello, il problema della violenza non è quello, non è la possibilità di identificare nel casco, con un casco, il poliziotto. I poliziotti sono facilmente identificabili, per cui non è quello il punto. Di fare riprese senza essere pestato, ma nessuno lo mette in discussione il diritto di fare riprese. Quello che non è un diritto, invece, quello che non è un diritto è andare alle manifestazioni con i caschi in testa. Se uno va a fare una manifestazione, il casco lo lascia attaccato, sì, lei al motorino. Andare con la telecamera a vedere quando gli agenti provocatori provocano e si pestano gli operai. I pastori della Sardegna l'anno scorso sono stati pestati. Guardi, non Alessandra, sono neanche Alessandra, riusciti ad arrivare, sono, guardi, stati ricaricati. Detta con grande, Alessandra, rispetto, se uno in piazza non rompe i coglioni, non è che ti manganellano così a buffo. No, dopodiché può essere successo, come dice lei. Qualche volta qualche può eccesso essere successo, ed è successo, non può essere successo, che ci siano delle persone, dei rappresentanti delle forze dell'ordine che si vogliono sfogare, che vogliono menare le mani. Non c'è dubbio su questo, vanno punite quelle persone, vanno fatto, prese e punite. Ormai ci sono immagini ovunque, le immagini sono sempre a disposizione. È vero che punire un rappresentante delle forze dell'ordine è istituzionalmente più complicato rispetto alla punizione di un dimostrante, su questo non c'è dubbio, perché punire lo Stato che punisce lo Stato ha sempre posto un piccolo problema. Dopodiché i numeri identificativi secondo me non facilitano nulla, inizierebbe una caccia all'uomo, una caccia alla gente indiscriminata. Mi sente? No, non mi sente più. Marco da Milano, che non è Marco da Milano dell'Espresso, ma è il signor Marco che ci chiama da Milano. Sì, buonasera, sono Marco da Milano. Qui c'è Crosetto che è venuto qua e poi a un certo punto adesso vaga qui, vaga per la redazione, nostri, ecco, al telefono con i dignitari del PDL, con i dignitari del PDL. Adesso o viene qui a dirci mi sa sta che parlando. Credo che lo stiano chiamando da hardcore? No, da hardcore, da Via dell'Umiltà. Via dell'Umiltà, anche questo è molto bello ricordarlo, no? Da Via dell'Umiltà. Che la sede del PDL è in Via dell'Umiltà. Da, che non è proprio appropriato a Berlusconi, non è la parola umiltà, no? Di Via della Ricchezza ci vorrebbe. Invece è via dell'umiltà. Sì. Mentre a Enna era in Via della Scrofa, quello forse già di più. Beh, no, adesso non insultare, ma perché? Dai. Comunque, il problema fondamentale Piazza è che del Gesù, pare lo stiano chiamando per capire, ma tu che vuoi fare? Sì. Signor Crosetto, ti vuoi alleare con la Meloni contro di me? Sì. Oppure no? Mi vuoi fregare? Vuoi cercare di fregarmi? Terrorizzati. Oppure no? Come dice Blob, la gazzarra delle libertà. Adesso però stanno parlando di Gaza, che è un'altra cosa. Chi c'era? Marco da Milano, sì, Milano. Marco. Sì. Allora? Poverino Crosetto, poverino. Che ha fatto stasera Crosetto? Stasera la ballerò, l'hanno massacrato. Stasera l'avete massacrato, ma è massacrato. Massacrato. Ma dovete essere più cattivi, secondo me. Ma non si è fatto massacrare, non si è fatto massacrare. Sì, ma che ha fatto? Ti conti un po' come sparare sull'ambulanza. Cioè, ma no, ma Crosetto, guardi che adesso veramente uno dei... non è che se uno ha fatto politica nel PDL per una o due legislature deve essere marchiato a vita. Non può essere marchiato a vita. Ieri, insomma. Poi... Un attimo solo, sentiamo. Dove non c'è la lira... Quella Roma del cuore di Roma. Me l'andavo da quella Roma della Banca Commerciale Italiana, del Monte di Pietà, di Piazza di Campo di Fiori, di Piazza Navona, quella Roma che c'è, la sigaretta, prestami 100 lire. Quella Roma del CONI, del concorso ippico, quella Roma del foro che portava e porta ancora il nome di Mussolini. Me l'andavo da quella Roma di merda. Mamma Roma, addio. We award the prize. Remo Remotti, pizzicato da Blob numero uno. Remo Remotti, già ospite della Zanzara, signor Remotti. Sì, però è un po' cambiato, insomma, negli anni. È una voce un po' più dimessa, è sempre un numero uno. Marco, dica. Sì, no, ecco. Allora? A parte Crosetto, che fa? Chi è che l'ha chiamato? Da chi ha ricevuto tutte queste telefonate? Da quando è uscito dallo studio è una telefonata continua. Chi l'ha chiamata? Poi si è messo dietro il vetro della regia. Si è messo dietro il vetro, tipo gufo là dietro, a vedere. Sì. Vuole sentire il commissario del popolo. Forse vuole sentire Renzi tra poco. Però, ma chi l'ha chiamata? Lo vuole sentire adesso? Crosetto, chi l'ha chiamata? Alfano, Alfano. Veramente? Alfano. Chi è Alfano? Ci sta dicendo dal di là del vetro, Alfano. Ma che cosa ha detto Alfano? Che le ha detto Alfano? Cosa ha detto Alfano? Era incazzato? Pubblicità, poi ce lo rivela, Adesso lo facciamo rientrare e ce lo rivela. Sì, sì, sì. Sì, sì, la aspettiamo qui. Sì, sì, sì. A furor di popolo. Lo volete o non lo volete, cari amici della Zanzara? Crosetto che ci deve rivelare. Che cosa gli ha detto in questa telefonata il signor Alfa, che non so, non mi ricordo chi è. Alfano. Il gigante, la bambina. È tornato tra noi. È tornato tra noi a rivelarci i grandi misteri delle primarie del PDL. Come no? Del PDL. I grandi segreti. Parla il suo errore. Guido Crosetto. Il suo errore è stato quello di non andarsene. È rimasto qui perché non c'è niente. Sono stato da fare. Qua, no, sono stato qua ad aspettarvi perché. Cioè, volevo. Perché ci paga la cena, non ho capito. No, se mai la pagate voi a me perché vi ho sopportato per mezz'ora. Vabbè, no, chiedere l'apparenza è impossibile. Sì, esatto. Sì, infatti, esatto, questo è vero. Allora, è vero o no che ha visto Berlusconi oggi? Sì. Sì, sì. Qua, per quanto tempo? Un'ora. Un'ora. Cosa avete è riuscito a parlare non di gnocca per un'ora? Lei Parenzo c'è veramente. Ce l'ho qua. Io. Cioè, lei c'è. Adesso, lei no, veramente. Adesso non mi faccio girare. Ha solo una cosa. Lei ha solo una cosa in mente. Parenzo, lei non la racconta. Lei non la racconta giusta. Ma se io ce l'ho vista la gnocca, che cosa c'ha Berlusconi? Lei non la racconta giusta. Lei non la racconta giusta. Ha ragione Crosetto in questo caso. Comunque, è favorevole alle primarie Berlusconi o no? Ma perché devo parlare? In questo incontro, cosa le ha detto sulle primarie? Come lei sa, io tutte le volte che ho visto Berlusconi non è mai uscita una parola di quello che ho detto. Io vado normalmente a dire le mie idee, sì. Gliele dico tutte è le volte. Alcune volte le apprezza. Si può dire molte, che è entusiasta delle primarie? Entusiasta delle primarie. Ha dei dubbi logistici. Come dei dubbi logistici. Cioè, ha visto che è bella dei dubbi logistici. Ci sono i dubbi esistenziali, i dubbi politici, i dubbi logistici. Ha dei dubbi totali, diciamo. Sì, dubbi logistici sulla difficoltà di organizzare le primarie. Ha dubbi logistici sulle fiate. L'ha espresso pubblicamente, quindi non bisognerebbe mettere un'oggettina in ogni seggio, magari ci potrebbe essere. Ma è come al solito, lei ritira fuori perché ha questa fissa. Non è mia. Cioè, no, ma veramente. Ma non è mia. Ma poi io la conosco anche al di fuori della radio. Alfano cosa le ha detto? Alfano cosa le ha detto? Al telefono adesso. Ciao Guido. Che le ha detto? Sì, non fare il ticket con la Meloni. Non ti permettere di fare il ticket con la Meloni. Ho letto questa cosa del ticket con la Meloni, ma... tutto qua. È tutto qua, su. Tutto qua. Non che lo fare. Fatti, ma, ti prego non lo fare, che ha detto? Ti prego non lo fare. Ma per carità, ma scusate, tanto tra un anno saranno tutte rese pubbliche. Lei per fortuna non c'è nulla di lei e la Meloni, lei e la Meloni contro Alfano, c'è cioè, la possibilità che, di vittoria c'è. Se, mettiamo che voi fate un ticket. Ipotesi per assurdo, no? Non penso. Non penso. Non pensa di poter fare il ticket? Ma no, primarie che si fanno il 16 di dicembre, cioè con 20, con 20, no, con 20 giorni di tempo. Sì, comanda la russa, come ha detto, no, come ha detto Bondi, comanda la russa. Sono primarie dove partecipa, è difficile far partecipare qualcuno che non sia della classe dirigente del partito. Dunque, io come, mi augurerei primarie in cui come ci Bersani fossero ha invece voluto, le persone esterne. Allora, come Bersani ha voluto fregare Renzi con questa storia delle regole, la russa e alcuni dell'apparato, compreso Alfano, vogliono fregare voi, o no? Beh, guardi, non so se abbia fregato Renzi, ma comunque pare si siano scritte 1 milione di persone, poi ne prevedono un altro milione. Quando partecipano 2,5 milioni di persone, cioè non c'è solo l'apparato del partito. Questa data non l'ha decisa lei, l'ha decisa la russa. Ha ragione Bondi quando dice non conta nulla. Comanda la russa. Ha ragione o no Bondi a dire che comanda la russa? Sì. Ma no, dove l'ha detto Bondi? L'ha detto dappertutto. Comanda la russa. Eh sì, sì, comanda la russa. È vero o no? Bondi è uno dei coordinatori nazionali. Ma è vero o no che ha detto... Io non ho un ruolo nel partito. È vero o no? Non c'è neanche l'ufficio alla Camera. È vero o no che la russa ha detto o il 16 o rompiamo? La Russia era una di quelle che diceva bisogna farle subito e non aspettare gennaio. E se qualcuno, aveva un'idea diversa? No, beh, questa è... Lei ha detto qualche cosa, bisogna rimandare di qualche settimana, meglio farla a gennaio? Ma a me sarebbe piaciuto avere il tempo per poter parlare delle mie idee in giro, se non ci sarà ne prendo atto. Per cui l'ha deciso la russa questa cosa qua? No, non è la decisione della russa. Cioè, o si ma lei ha fatto un golpe, cioè ha detto... Ma figuriamoci, adesso non date più peso di quello che ha Ignazio. Cioè, Bondi ha lo stesso peso nel partito che ha la russa, dunque, il coordinatore nazionale anche lui. Vabbè, sì, ho capito. Vabbè, sono tre. Noi comunque facciamo il tifo per il gigante, facciamo il tifo per chi? Per il gigante e... Il gigante e... Il gigante e... Tony il Angelelli. Gigante poi la bambina. Com'è che fa? Sotto il sole, non so le parole. Se me la fate sentire perché un giorno senza tempo camminavano tra i sassi. Matteo Renzi, lei conosce il signor Crosetto? Come Conosco anche il signor Dalla. Camminavano tra i sassi. Vai. Come sta? Molto bene. Voi come state? Dove sta? È sul camper? Sono sul camper tra Imola e Ravenna. Siamo nel cuore dell'Emilia, quel gran pezzo dell'Emilia, avrebbe detto un grande. È il triangolo della gnocca. Le piacerebbe sfidare Crosetto? Sì. Cioè, le piacerebbe una battaglia? Sarebbe una cosa nuova? Renzi, Crosetto. Io sono tutti i giorni a difendermi dagli endorsement di quelli di destra per me. Si immagina se adesso inizio a rompere le scatole io a quegli altri. Beh, però Crosetto si voleva. Facciano le primarie, si divertano, speriamo che le facciano serie, che le facciano vere. Adesso sembra un po' un circo Barnum per adesso, o no? Non ha pure lei questa impressione che sia un po' così, candidati un po' assurdi, o no? Figuriamoci se io adesso le dico di sì, così lei poi fa l'agenzia Renzi, primaria del centro. Ma scusi, ma perché noi facciamo il terrore dell'agenzia? Io... lei fa, dà lavoro a un sacco di gente, ogni giorno arriviamo noi, adesso voi fate l'agenzia, era roba da matti pure questa. Però io posso salutarlo? Sì, saluti. Poveri Calimeri. Posso saluto. Ciao Matteo. Ciao, in bocca al lupo. Ma volevo chi fa il ticket? Fai tu il capo o lo fa la Meloni? Non parliamo di ticket. Io l'ho conosciuto nella sua veste di sindaco, parlando di immobili della difesa di Firenze. Il rapporto con lui è stato istituzionale ed è stato un rapporto nelle primarie del centro-sinistra. Per citare Renzi, secondo lei io rovino le primarie facendo l'endorsement? Vabbè, lingua in bocca. Cercate di essere un po' leggeri. Ma non succede nulla se lei, Crosetto, dice io nelle primarie del centro-sinistra faccio il tipo perché vinca Renzi. Mi piacerebbe. Non lo farà mica per Vendola, scusi, signor Crosetto. Cosa? Non lo fa mica il tifo per Vendola. Lei domenica, se vince Renzi, sarebbe contento? Beh, io, intanto domenica vince la democrazia. Vi capito. Ragazzi, cioè, devo rovinare. Ma perché deve rovinare Renzi? Ma perché è giusto che loro, gli elettori del centro-sinistra, vadano a scelgano. Matteo ha fatto una campagna molto bella, molto aggressiva. Sì. Raccoglierà i frutti domenica. Suppongo ci saranno i ballottaggi. Ad esempio, l'Huffington Post dice che Bersani vince al primo turno, forse. Che dice con l'Huffington Post? Sbaglia Renzi, l'Huffington Post? Non dice che viene al primo turno, se ho letto io bene. Dice che... controlla tutto. Da un sondaggio Ipsos, da Bersani vicino al 50%. Non credo sia Ipsos, sa? Però va bene. Dopo Dalimonte anche un sondaggio Ipsos da Bersani vicino al 50%. Vabbè, comunque, benissimo. La mia impressione è che siano più degli incoraggiamenti che non delle realtà vere. Se lei pensa che l'ultimo sondaggio di Ipsos, chi è? Ipsos e Pagnoncelli? Sì. Era Ballarò, del tutto casualmente martedì diceva 42-32. I miei dati così io la gioco... Lei sta dicendo che Ballarò e Ipsos fanno il tifo per Bersani? No, figuriamoci. Ballarò mi ha chiamato 3 volte, non credo che faccia il tifo per nessuno. Per quello che mi riguarda, io non credo che ci sarà una vittoria di Bersani al primo turno. È quello, mi sembra che lei lo dica, Però, come dire... mi piacerebbe che ciascuno mettesse da parte tutti i sondaggi che sono usciti. Anzi, perché non lo fate voi? Cioè, ora non voglio farmi i fatti vostri. No. Lo sto facendo. Ma noi i sondaggi non li giudichiamo mai. Mettete da parte tutti i sondaggi, perché io mi ricordo i sondaggi che davano SVG, Ipsos e altri prima delle primarie di Firenze. Sì. Mi davano tutti sotto di 10, di 15. Poi, improvvisamente, i cittadini non li presero quei sondaggi e io... Scusi, Renzi, lei ha detto oggi in un fuori onda da qualche parte a 105 dai nostri amici di 105 Friends fatto fuori onda anche Ho capito, girano ormai era acceso eravamo in vabbè fuori onda non in senso negativo ma un fuori onda nel senso che non eravate in onda in diretta in quel senso eravamo in diretta sulla rete e c'era la pubblicità sulla radio ma non era in senso fuori onda rubato, non lo stavo dicendo in quel senso lì, che la più grande cazzata che è stata quella di parlare a un certo punto delle regole. Però lei non pensa che alla fine l'hanno voluta fregare con queste regole? Sa che cosa ho fatto io, un tentativo oggi? Perché io, come lei sa, voglio votare domenica, ma domenica sono casualmente a Firenze. Perché per vuoi la votare? Scusa? Voglio votare domenica per Renzi. Perché mi uccidi Renzi così? No, non tu. L'avrei già ucciso da due o tre mesi, perché come sa Renzi, l'ho detto apertamente. Pur non essendo un classico elettore del Partito Democratico. Cosa ho fatto? Siccome sono a Firenze domenica per la maratona, a cui lei non parteciperà a Renzi, credo. Se mi riesce faccio la mezza, se non sto malissimo, se non arrivo a pezzi dalle cose, perché da 3 mesi che non corro, ma... da mezzo dovrei leggerla. Beh. Quindi magari facendo, girando piano alle 5.30 facendo... Renzi due punti farò la mezza, possiamo mandare questa alle agenzie o anche questo problema. No, vabbè, farò no. La mezza puntando a farla in due ore, insomma una roba tranquilla, a passeggio. A passeggio, eh beh sì, due ore alla mezza per me a passeggio ovviamente, ma anche per lei a passeggio, a tempi migliori sulla mezza. Allora, siccome sono a Firenze, guarda, domenica, dovrebbe essere in un paese, diciamo, in una situazione normale, potrei chiamare il mio seggio di Milano e dire scusate, io sono a Firenze, ma dicono che non si può fare perché in realtà solamente se sono fuori sede, cioè non posso votare domenica. La verità vera è che io non ci ho capito la mazza di sta roba. Neanche lei. Così, no. Però, delle regole, dire, dice lei. A chi non fa la maratona di Firenze, a parte lei potrebbe anche stare a dormire un paio di sere prima, così aumenta il turismo a Firenze. Poi però quando ha fatto la maratona, quanto ci metterà lei? 3 ore? No, ma io devo lavorare anche. Ho capito, lei si fa una bella doccia, va a casa e vota. Ma no, io voglio votare a Firenze domenica sera, perché voglio rimanere domenica sera a Firenze, ho delle cose da fare, degli amici da vedere. Ho capito, però se c'è delle amiche a Firenze lo dica. Però. Bravo il sindaco! Anche questo sì, è un delitto avere delle amiche a Firenze. No, presta... però quando deve votare per il sindaco di Firenze magari le amiche potrebbe lasciarle a casa. A lei non piacciono le donne? A lei piacciono le donne, no? Anche a lei piacciono. Ma guardi, non si preoccupi di me, si preoccupi di lei, è lei che deve votare. Mi presti il camper, Renzi, mi presti il camper. Io però voglio dire una cosa, sua moglie non è arrabbiata perché lei da un mese ha detto che niente, lui è nisba? Guardi, faccia per bene, pensi alle sue, facciamo che ognuno gioca in casa propria. Scusi, ma l'ha detto lei, l'ha detto, no, che è arrabbiatissima. Lui ha detto... Allora, andiamo con ordine, stavo dicendo una cosa seria, stranamente, le regole, voglio dire, noi abbiamo sicuramente sottolineato con grande enfasi il fatto che le regole... non sono un granché chiare. Lei non ci ha capito una mazza. Alla domanda non so rispondere, quindi lo dico subito. Però, per chi è una persona normale, non ha amiche a Firenze da incontrare la sera della maratona, non deve fare la maratona e può stare nella sua città, votare non è così difficile. Bazzo. Si va, si fa la coda. Sì, no, d'accordo, però... Si paga 2 euro, si dà il certificato elettorale, si dà la carta d'identità... Alla fine vanno voluto fregare, diciamo la verità. Lo dico apertamente, con queste regole un po' vi hanno voluto fregare. Lo dico, questo qua l'ha detto pure uno dei suoi uomini ultimamente, anche a noi, però mi dica, alla fine di questa corsa, ormai siamo a giovedì, vi hanno voluto fregare, sì o no? Hanno voluto rendere più complessa la partecipazione democratica dei cittadini, come se fosse Antani. Allora, alla luce di questo, cosa dico io? Dico che per me il punto centrale e fondamentale è che ci sia tanta gente che va a votare. Vabbè. Se va a votare tanta gente, secondo me non è come... Con quanto può vincere lei? Ha fatto una 3 milioni, se vanno 3 milioni può vincere? Yes. 3 milioni si può vincere. 2 milioni e mezzo, difficile. Vai al ballottaggio. Cioè, al ballottaggio. In caso vai al ballottaggio anche con 3 milioni, però... Ma per lei è un successo andare in ballottaggio? Beh, direi, Caspita, è un successo. Dicevano che avremmo straperso, però il mio successo è vincere, non è andare al ballottaggio. Certo, no, ma questo non c'è io dubbio. Io vinco se... cioè, il mio successo è se vinco. Vabbè, questo però, certo. È evidente che se vado al ballottaggio è già un passo in avanti. Perché ha detto quella... Però Vujadin di Imboscov, Sandori ha giocato bene, però perduto male. Grande frase di... Senta, signor sindaco, ma... Questo è il numero uno. Rigore c'è quando arbitro fischia. Ma Servo che esce di foresta, però detto questo, scusi, però una domanda cruciale. Ha giocato bene, però perduto male. Si ricorda quando Boscov non ne vinceva mezza di campionato e vinceva sempre la Coppa Italia? Il scudetto è importante, però più importante Coppa Italia. Non vuole finire come Boscov. Però adesso, prima della pubblicità, perché sa qual è il punto? Che c'è un sacco di gente che si accontenta di darci il premio simpatico. Beh, oggi lei ha detto che vuole portare quegli amici suoi in Parlamento. Ora dopo glielo dico, ma fermo lì. C'è un sacco di gente che cosa dice? Ah, bravo Renzi, ti sei fatto una grande battaglia, hai fatto il giro per l'Italia, hai portato il PD al 32 insieme a Bersani, bravissimi. Adesso accontentati, hai perso bene, tranquillo, sereno, un bel sorrisone, fa un respiro e addio. No, fa un respiro e addio, no, io voglio vincerle perché... Oggi il Sole 24 Ore pubblica un sondaggio, oggi il Sole 24 Ore pubblica un sondaggio in cui dice che lei ha più speranze se si candida... per il centro-sinistra, naturalmente il centro-sinistra ha più speranze se lei si candida come premier, perché otterebbe addirittura col premio di maggioranza oltre il 42%. Io faccio una cosa, diamo una moratoria dei sondaggi. Ma è vero o no che è più facile che lei vinca le elezioni che le primarie? Ma questo lo dicono tutti. Io lei lo dice o no? Lei ne è convinto o no? Sì. Non l'ho vista così. Diciamolo, sì, è vero, sono più convinto anch'io, però non importa, sto facendo una battaglia per dire che dentro il centro-sinistra si può affermare un modello diverso, e quindi sono contento di aver fatto le primarie. Cioè, insomma, in altri tempi, questo abbiamo capito. Uno di quelli che si fa l'ennesimo partitino e dai, che barba. Ma nessuno, infatti, dice che lei deve uscire a farsi un partitino. Domanda cruciale: domanda cruciale, fondamentale prima della pubblicità. Lei oggi sta andando a un comizio, poi le ruberemo ancora qualche minuto, però la domanda è questa: a maggio, guarda, Renzi, questa qua è fondamentale. A maggio, se lei deve immaginare la Fiorentina campione d'Italia o Renzi premier, alternativa secca, non alternativa, tertium non datur, alternativa secca, cosa sceglie? Quelli che lavorano con me vorrebbero Renzi premier. I cittadini di Firenze non avrebbero dubbi per avere Renzi sindaco e avere la Fiorentina scudettata. Sì, e Renzi? Credo che delle due sarebbero comunque due ottime notizie. Ditte due insieme non si può. Ragazzi, sono in campagna elettorale. E appunto. Che venga a fare le dichiarazioni. Scusi. Se posso io, tanto la Fiorentina non vincerà mai. Niente, se volete, Ma lo so che lei è capace di parlare ore senza dire nulla, però è anche in parte la sua forza. Lo però, ha detto, è la Fiorentina. Però dai. La Fiorentina, mi dica la verità, la Fiorentina premier e la Fiorentina premier. Sì, ho fatto un'unione. Bella premier e io allenatore, affare fatto. Vai, no, Fiorentina campione meglio. Meglio di Renzi premier a maggio, meglio di, preferisco la, per la Fiorentina campione rinuncerei pure alle, per la città, rinuncerei per a Palazzo Chigi. Guardi, per la Fiorentina premier, per la Fiorentina scudettata, io sono disponibile a fare un'ordinanza che le vieta di incontrare qualsiasi amica fiorentina. No. È un po' incostituzionale, però è molto divertente. Nel camper. Well now little mosquito there must be. Well some reason for you that I just can't see. Well there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Siamo qui con Matteo Renzi, che si trova nell'Emilia. Nel camper dell'Emilia. A macinare tu vai chilometri. A votare, Renzo, tu vai a votare domenica? Io domenica devo lavorare, essendo residente non a Roma, non potrò votare alle primarie. Ma è un casino, vede Renzi, che non siamo solamente, non c'è solamente la questione, cioè qui la gente vorrebbe andare a votare, non può votare, io non posso. Intanto, allora, ora siete ora vi frego, perché mi sono preparato nel corso della pubblicità. Se voi vi iscrivete entro domani... No, ho chiesto, la mia sezione del Partito Democratico, là dove si dovrebbe votare, mi ha detto se lei è uno studente fuori sede, oppure... Lei può andare comunque. Cioè io posso venire a Firenze comunque? Se lei si presenta, sì. Se lei si fa autorizzare, sì. Però... Ma dai, caspita, su. A parte Parenzo che finge di lavorare e lei che finge di imbarcagliare. No, io devo lavorare. Saranno veramente. Persone normali che vogliono andare a votare. In onda, votate, non lasciate ai politici il compito di decidere il vostro futuro. Questo votare è giusto. Però l'appello adesso... glielo facciamo fare. Noi non facciamo mai fare appelli, però è giusto. Andate a votare domenica alle primarie del centro-sinistra. Se siete. Per chi volete, se poi volete per me, a me non dispiace. Vabbè, questo è normale. Però lei ci deve svelare subito una cosa. Innanzitutto, questa cosa finale: la Fiorentina campione o Renzi. A Palazzo Chigi. Non ha risposto. Ha fatto 6 minuti di pubblicità, non se lo ricorda più nessuno. Quanta pubblicità avete? Va bene il programma. Per certo fortuna, che ci mancherebbe altro che farmela gramo fa. Sono contento per voi. Fiorentina campione, allora però... possiamo dire Fiorentina campione meglio di Renzi premier, sì. Abbiamo detto Montella premier. Vado avanti. Montella premier. Senta, ma lei dobbiamo avere una bella squadra quest'anno la Fiorentina. A me ammazza, Juventino come lei lo ammette. No, io non sono Juventino, ma sono della Lazio, comunque. E invece da l'ipotesi quando? Che la Juventus vinca la Champions League, come la vede? Una cosa nefasta, no? Ma io spero che vinca una squadra italiana. Ah, anche la Juve, dunque. C'è la, chi c'è rimasto? La Juve e il Milan? Milan? La Juve e il Milan. Perché l'Udinese è rimasto fuori. Se rimane solo la Juve, lei tifa per la Juve? Sono per le squadre italiane. Dunque, tifa per la Juve. Non ce la fa a dire la parola Juve, però vedi che invece non ce la fa, non gli viene proprio fuori. Senta... parlare delle primarie, proprio no. Voi... Sì, parliamo delle primarie. Lei chiuderà. Lei l'avete rinchiuso da qualche no, parte. No, Crosetto l'abbiamo riportato. È rimasto qui ad aspettarla perché la ammira moltissimo. Vuole sentire tutto quello che dice, perché in realtà voterebbe per lei domenica. Questa è la realtà. Altro col. Lei chiuderà, signor Renzi, le primarie a Siena. Questa è una scelta mica da ridere, bro, a Siena. Come mai? Il luogo del Monte dei Paschi di Siena. È vicenda delle banche, amico mio. Come mai chiude lì, Come mai? Perché mi hanno sufficientemente divertito con la storia delle Cayman. Se vogliono parlare di finanza, parliamo di finanza sul serio, di quello che è stato fatto in questi anni. A Siena. Se vogliono, se poi non vogliono... No, vogliamo, noi vogliamo. San Bernardino di Santa Caterina, la città della bellezza del buon governo, pensi quanto che valore ha. Poi è anche il superamento di una barriera. E quale? Cioè? Il Bernardino che chiude a Siena. Beh, in questo senso dice. Però lei andrà lì, scusi, però diciamo la lei verità. Lei andrà lì per ricordare ai dirigenti dell'ex a Bersani. La vicenda delle banche. Diciamolo tutto. Solo quella del Monte, anche quelle altre. Quelle anche della quelle scalata, la BNL. È vero che Bersani da questo punto di vista è un po' il, come dire, il simbolo della, di un'epoca passata, quella dei legami troppo stretti con la cosiddetta finanza rossa? Questo lo dice lei. No, no, lo è, la domanda, lei, è la domanda. Andiamo avanti. Poi? Beh, ecco, no, risponda come direbbe lei adesso. Ma alle primarie, ma alle primarie uno non fa battaglia con l'altro. Cioè, no, poi le cose, le cazzate non si possono dire. Le cose serie. La scelta di Siena è molto chiara, questo è ovvio. Perché c'è la vicenda del Monte. A proposito di quelle cose che lei ha detto del fuori onda e dintorni di oggi, io non ho fatto nessun tipo di fuori onda. Vabbè, fuori onda, quello che è, dai, su. No, ma voglio dire, ho detto una cosa molto semplice: che siccome io sono uno di quelli che sostiene che ci siano le primarie per i parlamentari. Sì. Spero che ci siano. Sì. È chiaro che se ci sono, mi dicevano che, che fai se vinci, se perdi, o non ce n'è uno che mi chieda se vinco, porca miseria. No? Si viene a dire se perdi. Porta anche un po' sfiga. Ma no, quanto scommetterebbe lei sulla sua vittoria alle primarie adesso, in soldi? 50-50. No, quanto scommetterebbe di soldi sulle sue, sulla io non scommetto. Non so. Vabbè, ma se dovesse scommettere. Le balle, poi frega le partite, è un disastro. Chi, la Juve frega le partite? No, ma perché deve cercare la polemica? Non la faccio la polemica. Frega le partite ai giocatori del calcio scommesse, per spiegare ai bambini delle scuole elementari di Firenze che c'era il capitano di una squadra che si vendeva le partite del derby, ci ho messo una giornata. Era quello del Bari, sì. Senta, ma tra i Magnifici 5... No, però aspetta, io vorrei rimanere sulla finanza. Ah, sì, sì. Allora, diciamola tutta su questa cosa qua delle banche e della finanza. Il PD di Bersani, ha molto da farsi rimproverare nei rapporti con voglio dire soltanto che a chi mi dice Renzi sulle banche ha fatto una cena con i finanzieri Davide Serra eccetera che cosa drammatica, vogliamo parlare di finanza di banche, io so per fare l'accordo con la Svizzera, Bersani ha detto di no, e per andare a recuperare il 26% sui patrimoni che sono stati portati in modo anonimo in Svizzera. Perché diciamo di no? L'ha fatto la Merkel. Poi una parte dei socialdemocratici tedeschi non è d'accordo perché dice non vogliamo i loro. Ma non credo che Bersani sia contrario. Vogliamo i nomi. Ma non è che Bersani non credo che Bersani sia contrario, Renzi. Ma ha detto a Sky, poi non so se a voi ha detto cose diverse. Durante il confronto a Sky ha spiegato che aveva qualche dubbio. Io invece non ho dubbi. Fare l'accordo subito, adesso. Punto esclamativo. Scusi, ma lei Serra lo prenderebbe a fare ministro? Ma secondo lei io la squadra del ministro. No, ma così. Le primarie, c'ho da vincere le come personaggio, come personaggio. C'ho da vincere le elezioni e vengo a fare la zanzara prima. Ma no, ma infatti è una stupidaggine, ho sbagliato io. Anche lei avrebbe querelato Bersani se fosse stato in Serra? Beh, è chiaro. Nel momento in cui gli ha dato del cosa ha detto, lei si ricorda? Bandito, sì, bandito. Non a lui direttamente, ma i banditi. Io spero che Bersani si scusi e che vadano a prendersi una bella pizza insieme. Però lo avrebbe querelato, se fosse in Serra ha fatto bene a querelarlo. Magari la sera può pagare anche Serra. Qualche risorsina ce l'ha, signor Serra. Vabbè, è un bravo ragazzo, uno è il primo della sua famiglia che si laurea. L'avete visto sul sito www.matteorenzi.it? Sì. C'è il video del suo intervento alla stazione Leopolda. No, sì. Guardi, ce lo com'è siamo... il sito? Non mi ricordo, scusi, non ho sentito. www.matteorenzi.it. Ah, grazie, non avevamo capito. Scusi, Renzi, no, ma dirlo. Io l'ho difeso, Serra, in quella polemica là. Guardi il video. No, ma va benissimo, per carità, ma non il fatto che lui paghi le tasse, il fatto che lui paga adesso, l'ho visto, il fatto che lui l'amica a Firenze torna a casa, vota alle primarie. Paraguru, Renzi. Ma lei paraguru. Il fatto che Serra abbia la residenza in Inghilterra, lei non fa né caldo né freddo? Non è che ha la residenza, quello se ne è andato. No, ho capito, il fatto che lei abbia appunto. Che lui abbia la residenza in Inghilterra, lei non. Noi costruiremo un paese che riporterà i Davide Serra in Italia, però per farlo bisogna cambiare il paese. Lui 20 anni fa se n'è andato perché in Italia non riusciva a fare quello che ha fatto. Ah, quindi lei dice con Bersani Serra rimane a Londra, se vince Renzi Serra torna in Italia, questo è il punto. Questo è il famoso effetto Serra. Ragazzi, dopo 2 mesi di campagna elettorale qualche diozia posso anche dire. Senta, come sta la signora Amadeo? Chi è Amadeo? La signora Amadeo, la mia amica, la signora Antonella Amadeo, la signora Amadeo che lavora con signor Renzi, la signora Amadeo. Ma perché? Ma chi non la conosce nemmeno, perché devi fare queste cose? No, ho chiesto così una cosa prima. Come sta la mia amica Amadeo? Ma chiesto, cosa c'è? A una certa c'è il momento dello scompenso ormonale. Ma perché? Anzi, è felicemente fidanzata. Volevo soltanto sapere come sta la mia ma amica. Ma che Amadeo. Te ne frega a te? Volevo salutarla. Ma che Amadeo. Te ne importa? Ma perché? Ma sei impazzito, improvvisamente impazzito. Ma non ho capito. Vabbè, ma Sposetti, che ha detto che lei alla fine ha speso fino adesso 2 milioni qua alla zanzara, 2 milioni. Guardi, Sposetti. Che problemi ha Sposetti? Zanzara, Sposetti c'ha un problema che fa ancora i conti in rubli, no? Quindi quando fa quando va a fare il cambio non ce la fa, fa un po' di casino. Per esempio ha detto: abbia speso per la polizza d'assicurazione 15.000 euro. Noi, siccome a differenza di Sposetti le cose le mettiamo trasparenti online, invece sì. Sposetti che la fa? Polizza è 950 euro, povero Sposetti, abituato lì che fa i conti in rubro. Ma lei affiderebbe i suoi soldi a Sposetti? Sa cosa ho detto io? Ho detto, siccome poi ha litigato con Reggi, mi dispiace perché sono due persone nello stesso partito, ho detto: quando abbiamo finito sta cosa qua delle primarie, sì, andiamo tutti a cena, li porto a mangiare la pizza, sì, oppure se paga Sposetti si può mangiare anche qualcos'altro, tanto i soldi non gli mancano. Fatto perché non gli mancano, secondo lei? C'ha il vitalizio, sta scherzando. Cioè è ricco, è un uomo ricco, dice. Ma insomma, tranquillo, sicuramente più del povero Reggi che ha fatto il sindaco di Piacenza. Il sindaco di Piacenza prenderà 3.500 euro al mese, Sposetti ha fatto il parlamentare e ne prende 2.000. E poi gestisce tutte le fondazioni di EDS. No, cioè, ma quello non vorrà mica che Sposetti è uno che mette in tasca soldi. No, gestisce le fondazioni, ma che ha un patrimonio personale legato alle fondazioni. Il patrimonio personale se lo fai perché ha fatto il parlamentare. Allora dicevo, sì, siccome Sposetti e Reggi li porto a cena, però nel frattempo Sposetti ha tirato un paio di castronerie spettacolari. Beh, l'uomo che partorisce non è male, eh? La vittoria di Renzi è come un uomo che partorisce, impossibile, come un uomo che partorisce. Questa l'ho trovata bella anche come, però, come sì, cosa. Attenta. Non è male. Vincerei le primarie solo per vedere poi come la giustifica, diciamo, cioè, i miracoli dell'eugenetica, non so come dire. Però va bene, vabbè, così c'è un sacco di bella gente che torna a far politica alle primarie, sono tutti gasati, esaltati. Ma questo lo so, anche lei mi sembra, carichissima, nonostante questa fatica eccetera. Lei mi sembra, cioè, ma alle 20:47 di una giornata così, e ne dovranno passare altre due, chissà, ma un'altra settimana. Io devo andare a Imola, spero solo che mi si scarichi l'iPhone, così ho una buona scusa per mollarvi. Ma no, ma noi siamo così contenti di averla finalmente. Suoi, no? Finalmente, gli ascoltatori non credo. Ma no, gli ascoltatori sono felicissimi. Vabbè, per esempio, la Bindi, lei oggi ha detto una cosa già, ma ha gli chiesto. Gli ascoltatori sono felicissimi. Per esempio, la Bindi, non ho capito se la Bindi è felicissima, l'ascoltatrice, oppure lei ha fatto una frase che non c'entra niente. Che vuol dire gli ascoltatori felicissimi, la Bindi? No. Per esempio, la Bindi. Gli ascoltatori sono felicissimi perché lei parla della Bindi. No, quello no, quello no, no, no, no. Non lo sappiamo. La Bindi non vuole venire qua perché dice che siamo due che la trattano male. Vabbè, ma sa, no, due, uno in particolare. Uno in particolare, che sono io, ma la Bindi. Ogni tanto la piglio un po' in giro, poi piglio in giro pure Renzi, ma Renzi non se la prende mica. No, figuriamoci, non mi fanno in giro per niente. Come no? Una volta quando lei dice di non essere invitato nelle televisioni, l'ho presa in giro, come no? Ma dicendo... lei mi prende in giro sempre, anche negli ultimi mezz'ora mi ha rotto le ma no, ma vabbè, andiamo avanti. Ma la Bindi che chiede la deroga, no? Se lei vince questa deroga, ci sarà o non ci sarà? Se io vinco faccio alla Bindi quello che ci sono, utilizzo quella frase del sta presente quelle email, no? Che le arriva l'email, poi c'è in basso un alberino verde, così tu rispetta l'ambiente, non stampare questa email se non è necessaria. Ecco, alla Bindi che rispetta l'ambiente, non stampare la deroga se non è necessario, non importa nemmeno che tu la stampi, ti diciamo di no prima, stai tranquilla, serena, non ti preoccupare, salva un albero in Guatemala e non stampare il modulo perché non serve. Rassegnati. Non sprecare la carta. Insomma. Rosy, rassegnati. Non sprecare la carta. E vabbè, io poi vorrei capire dopo il traffico perché Casini ce l'ha tanto con lei. Dopo il traffico poi bisogna che vada io. Sì, ragazzi, sì, dopo il traffico solamente. A schiacciare i punti neri alle coccinelle. No, dai, com'è? Cioè, non stiamo qui a schiacciare i punti neri alle coccinelle, come avrebbe detto il compagno segretario. Oh, Fiorentina, di ogni squadra ti vogliamo regina. Oh, Fiorentina. Beh, devo dire la verità, caro Renzi, quest'anno anche a me la Fiorentina è simpatica. Che devo fare? Cioè, perché Montella è veramente un numero uno, eh? Cioè, Francesco, è veramente Montella. È veramente l'altro giorno con Cesare Prandelli, che è venuto, che l'appoggia, vabbè, Leopolda, sì, e spiegava come anche secondo lui la Fiorentina c'è un calcio molto molto buono e Montella è un allenatore serio, preparato, che sta facendo delle grandi cose. Beh, insomma, sì, è così. Magari, che ne so, magari ve lo strapperanno pure sto Montella, come Beh, di solito quelli bravi ce li strappano, però male che vada, ma poi io penso che in realtà ci siano le condizioni. Ho visto i Della Valle belli carichi, belli tosti. Secondo me invece la Fiorentina farà un lavoro nei prossimi anni. Per la Fiorentina campione è meglio di Renzi Premier, direi, no? Meglio di Renzi Premier. Anch'io preferisco. Ma sì, certo. Per Firenze sicuramente. Per Firenze sicuramente. Per Firenze sarebbe meglio questo. Per Firenze sarebbe meglio questo piuttosto. Vabbè. Qua perché Casini ce l'ha tanto con lei, Renzi? Mi dia la vera ragione. A parte il fatto i ragionamenti politici, perché ovviamente una sua vittoria scompaginerebbe tutto e dunque metterebbe in crisi anche la possibilità di Casini di fare. Questo è. Casini ha avuto un compito da Bersani, che è quello di andare a prendere il voto dei moderati. Va bene? Sì. E quindi giustifica la funzione di partito di centro andando a recuperare il voto che sta nel mezzo. Sì. Io credo invece in uno schieramento che non abbia bisogno del centro per recuperare quel voto, ma che consideri contendibile il voto mediano senza bisogno andare a rincorrere il Casini di turno, il partito di turno. Ma no, io volevo sapere perché personalmente, perché ce l'ha proprio, ha detto delle cose su di lei anche ogni tanto pesanti. È quasi personali. Cioè, no, ma delle cose tipo, come dire, sì, Renzi, non... No, non... Ragazzotto. Delle cose quasi da... Non la prende in considerazione, insomma. Non so. No? Se ne farà una ragione, mi pare, su Renzi. Ma è successo qualcosa tra di voi, mai, no? Detta così sembra che ci siamo lasciati, abbiamo fatto una civil party. Scusi, De Benedetti una volta ha detto di lei: abbiamo già avuto Berlusconi, anche Scalfari ha detto che Renzi è come Craxi, ma il gruppo Repubblica... Vabbè, ho capito, se fa l'elenco di quelli che hanno parlato con me, no, male, per carità, hanno parlato male di me, non si sa quando si parte, non si sa quando si ma il gruppo Repubblica ha fatto campagna contro di lei? No, ha fatto il bene, giornale appunto. Delle ha seguito le primarie nel modo corretto, molto serio, sì, corretto, certo. Corretto. Poi uno si arrabbia sempre per un titolo, per vabbè, un problema, quello, ma chi di noi non si arrabbia? No, certo. Io però c'ho il problema che sono arrivato. No, ma tanto noi abbiamo finito. Beh, per non cui... hai capito se la notte dorme. Secondo lei ha fatto un errore nel fatto di resuscitare a un certo punto D'Alema? Questo sì. Qua è un errore. Lei ha commesso un errore. Cioè, ne ha commessi tanti, evidentemente, nella vita come tutti, ma un errore. Cioè, io sono convinto che questo fatto di insistere con D'Alema alla fine abbia un po' fatto resuscitare D'Alema da una situazione di normalità. L'ha reso quasi simpatico. O no? Questo non, secondo me no. Non è un errore che ha fatto. Ma secondo me quello non è stato un errore. Non è stato un errore. Ne ho fatti tanti, ma non questo. Non quello. Grazie. Saluti. Saluti. Voi, voglio serata. Votare a Firenze. Faccia in modo che io voti a Firenze domenica. Lei faccia il bravo con le fiorentine intese come donne, non come bistecche. Grazie. Quando la sera quei due tangheri, quei due minorati di Crociani e di Parenzo, capro, cioè dei poveri deficienti, quei miei simpaticissimi colleghi che fanno la zanzara, quei due dementi, capro, imbecilli, quei due poveretti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Mandatela a quel paese, va. Radio 24. La passione si sente.